consegna dalle 10 di notte. Sono arrivati con questi due bacioli che ce l'ha da tirare tre in faccia. Però inizialmente non ce ne siamo resi conto. Quando poi abbiamo diviso le parti abbiamo detto, ma il resto dov'è? E dice, qual è il resto? E abbiamo telefonato lì al coso, alla direzione, e ci hanno detto, scusate, ci verifichiamo in su. Vedi, se fosse stata una persona in gamba avrebbe dovuto telefonare a un ristorante, chiedere l'esubero, prendere 12 porzioni, pagarle in tasca e restituirci i soldi e farci fare la cena comunque. Allora avrebbe fatto una bella figura. Invece così si sta facendo tanta di quella terra bruciata, perché ci sono 12 persone che sicuramente ne stanno dicendo di tutti i colori. A meno che non ci siano quelle due persone che hanno ricevuto il catering di 12 che ne parlano bene, hai capito? Ma mio hermano, ma anche quelli là però ritrovarsi tutta questa roba, eh? Ma te immagini che tu che perfetti giocate? Vabbè, tu cosa fai? Ciao Luca, anzi ne parli bene, sicuramente rimarranno male il prossimo anno, perché lo riprenderanno e gli arriverà la roba giusta, e allora diranno, tale Baldino sta andando in carrozzoli, capito? Sta andando in fallimento. Avanti Luca. Oh. Chi è? E siamo andati a vedere un gatto. Chi è? Avanti. Buonasera a tutti. Ciao già. Mi hermano. Buonasera, che passa? E allora, in forma siamo ragazzi. Cosa dite, Drubito? No, era al computer, io stavo guardando alieni, UFO, tutta questa roba qua. Qui stavo più avvicinando, io lo stesso mi sono seduto sì con la poltrona, anch'io con la poltrona in pelle che ho. Dai, continuiamo dopo, avanti, ce la facciamo un po' forse senza fare i saluti. Avanti Antonio per Gianni. Beh, vabbè, non è che non so se lo posso salutare a Gianni, ma comunque. Per questa volta lo saluto, dai, perché io ormai sono un radioamatore e ho la patente, sono una persona, diciamo, di classe sociale adesso più elevata, capito? È vero che mancava la carta igienica a casa, ma visto così la persona della volta me l'ha presa la patente, che mi serve per pulire. Fai da bravo. Ui. Luca. Ciao Andrea, già. Stavo dicendo, tu, ma quant'è la spesa in soldi, a parte il discorso di prepararsi? Cosa ci sono? Conti correnti da fare per caso? A titolo informativo lo sto chiedendo, non è che peraltro, capito? Fra l'altro ricordati questo già, adesso che mi ci fai pensare, non la usare la patente se te la dovessero dare per pulirti il popò, che c'è la tua foto lì. Costa purtroppo troppo, Luca, nel senso che devi fare dei versamenti, cioè in se stessa non costa niente, perché sono versamenti da 25 euro, dopodiché devi fare la domanda dove metti una prima marca da bollo che è di 15 euro, la seconda gliela porti e sei già a 55. La patente poi la devi pagare, ti costa tipo 1,50 euro, versamenti raccomandati arrivi tipo a 60-70 euro. Poi ci metti una discesa e una salita a Cagliari, sono altri 40 euro e siamo già a 110. Tra una cosa e l'altra, bere, mangiare, tirare e mollare, ogni volta che ci provi ti partono 150 euro così, senza dire CIU. Ah, no, aspetta, no, aspetta, non lascia perdere con l'acqua, che tu mi dici, lo voglio mandare a mangiare. Bisogna vedere, io mi mangio un paio di mozzarella, per esempio, e tu ti mangi la ragosta, non è una considerazione. Io voglio sapere cosa costa in soldi, a parte il discorso di scendere giù a Cagliari per sostenere l'esame, il pernottamento, se non vuole pernottare, via dicendo, se scende di macchina, se scende in treno, via, capito? No, io voglio sapere cos'è in spesa di barche da pollo e di conti correnti all'incirca, approssimativamente. 80 euro mettici, perché sono due marche da pollo da 15 euro, sono 14,62, più 25 euro che è la tassa di cose, d'esame, più 5 euro che ti costa la patente vera e propria, più, quindi sono 15,30 e 25,55 e 5,60. Medici, le marche da bollo, le cose, le raccomandate, e sono altri 10 euro perché ne devi fare due, sono 60 euro, 60, metti 70 euro dai in tutto. 100 euro scarse neanche? Clapparoggio. 40 euro ci rimetti per scendere e salire, a meno che non lo fai in due o in tre come conviene fare. A questo devi aggiungere anche se ti mangi un panino con la mortadella, 10 euro li spenderai, te ne mangi almeno due, no? O metti 5 euro e sei già a 45. Fra un metro e una quaglia, se vuoi arrivare fresco, perché lì alle 8 e mezzo che hai 30 che appola appola, quindi devi anche essere lì, quindi conviene pernottare per essere freschi. Ti parte un altro 40 euro e il doppio ti parte solamente per andare giù. Ti consiglio di non fare Coca-Cola, se no ti sciruppino. Ho capito. Ma ascoltami, il discorso per quanto riguarda invece le cose qui, i materiali, il libro per studiare, quella roba lì dove la uno, dove la trova? Guarda, il libro ti consiglio di utilizzare, ce l'ho qua, il libro dove ci sono anche i test alla fine, se ce l'ho, aspetta, perché questo me l'aveva dato Fabrizio, fra l'altro glielo devo anche restituire. Ed è quello di Neri e si chiama, aspetta che l'avevo messo talmente, allora si chiama Manuale del radioamatore, aspetta, Nerio Neri e non so come, cos'altro c'è scritto, ed è Radiotecnica per radioamatori. E lì c'è un, come stavo spiegando, c'è tutta una tecnica per studiarlo questo libro. Non è informazione all'avversario, non è informazione all'avversario. Non sono avversari, anzi, sono dei bravi ragazzi. Paola, tu dammi questa informazione, che dopo te lo dico io come ti fate, Anto. Guarda, l'informazione è molto semplice. E la stavo dicendo ieri a cosa, non mi ricordo a cosa, Gio Maria. Tu devi pigliare una banca, da pure una gadria, ci metti il culo sopra, inizi a studiare, ogni tanto ti devi toccare il sedere. Quando il sedere ha la stessa durezza della sedia, tu scendi a dare l'esame che lo passi, non c'è problema. Infatti io, se vuoi prendi un mese di bomba a studiare tutto sul libro. Un mese ci metterai, un mese, guarda, se fai un paio d'ore, un paio d'orette ogni giorno, alla grande, quando hai studiato, quello per dirti, quando hai studiato, scendilo dai, senza nessuno, anche se ti sembra di non sapere niente, scendilo dai. Avanti là. No, sto facendo cose, lascio una battuta per salutarvi, ciao a tutti, Antonio, Gianluca e Gianni, riprendi già. Ciao Claudio, ben sentito anche a te. Insomma, ti quasi voglio lasciare la 27, riuscire? Oh no, io non giusto per capire, perché molte volte ho sentito chi mi diceva una cosa, chi mi diceva l'altra e queste cose qua, allora già mi informo da cose competenti, dai, vediamo un po' come mia, tu non già mi hai detto una cosa buona, adesso vediamo così giusto perché mi hanno chiesto alcune persone, capito? E vediamo un po', tanto penso che sia su tutto il territorio nazionale che sia la stessa cosa, no? Oppure da regione a regione cambia. Sentito qualcosa nell'orizzonte? No, è tutto il territorio nazionale, tu per assurdo puoi andare a darlo anche da qualche altra parte. Gianni, il problema non è lasciare la 27, perché se a me la patente di radioamatore mi facesse lasciare la 27, non l'avrei presa. A me piacciono le cose che mi ampliano le vedute, non che me le restringono. Quindi no, io considero, credimi, stiamo sempre parlando in frequenza, stiamo sempre parlando con una radio che ha lo stesso sistema di quelle che parlano qualche, come si dice, qualche hertz più in basso o più in alto. Non mi devo escludere niente nella vita, è quello che mi dà fastidio, non avere la possibilità di fare, non di non fare. Se, per come capita a molti, una volta che ti senti radioamatore vuol dire escludersi la possibilità di stare in 27 perché ti senti in qualche modo denigrato, comunque qualcosa in meno, non l'avrei presa. Io psicologicamente sono completamente diverso da molti, quindi se mi vedrai in 27 come su, soltanto che su devi comportarti in un certo modo, anche ti pigliano già forti. Qua diciamo che è un pochettino più libero. Ciao Bidu. Vedete? stai parlando, no? Prego. Bene, tu domani mattina ci sei, scusando il break un attimo, ho sentito, ho registrato, domani mattina ci sei lì al lavoro? Allora domani sera se ti fa di fare un giro, quando io ci sono di mattina di giù lì, e tu sei in giro per fatti tuoi, che ti puoi avvicinare, oppure domani pomeriggio se scendi che c'è tutta la roba in garage. Scendere giù, lo facciamo fuori. Lo facciamo fuori, scusando un attimino il break, lo facciamo fuori in un piazzale, dai, dove abbiamo l'aria aperta, dai, diciamo, non ci sono cose. Avanti il break. Positivo, positivo, buonasera a tutti, Massimiliano Bulldozer da questa. Ciao Massimiliano, ben entrato, in compagnia di una bella ruota, dai, c'è Claudio un attimino che sta facendo cosa, Gianni, Antonio Grossi, Eugenio che è in barra mobile. Avanti Gianni, lo fai girare. Ciao Massimiliano, ho sentito cosa hai fatto a te. Antonio, volevo rispondere a Antonio, ognuno è libero di fare ciò che vuole, dai, io stavo scherzando, non c'è problema. Ognuno è libero di fare le sue scelte, tu hai fatto la tua, io ho fatto la mia, per cui rispettabilissimi tutti e due. Avanti Claudio. Aspetta, intanto Claudio in cuore X. No, a parte che lo so che stavi scherzando, ci mancherebbe. Ciao Massimiliano, ben sentito. Ma io non ho fatto una scelta. La scelta vuol dire o uno o l'altro. Ecco, io quella scelta non l'ho fatto. Io me lo piglio tutti e due. La scelta potrebbe essere, oltre a fare quello, faccio anche questo. È una scelta tua, sempre, no? Ma comunque, niente, siccome... Diciamo, io quella mia è stata solo una battuta nei tuoi confronti, perché lo so che tu sei appassionato anche qua e ogni tanto entri a salutarci e cosa, mi fa piacere questo, che non ci siano delle menti chiuse. Ma ci mancherebbe, ma ti ripeto, e poi rilancio a Massimiliano, è un discorso che abbiamo già fatto. Non c'è, io non mi considero noi, voi, loro, essi, ma quando mai? Guarda che ghettizzarsi vuol dire comunque mettersi nella condizione di escludersi da determinate cose. Io credo che ci sia solamente da parte di chi poi si è preso questo permesso, chiamiamola patente, una curiosità diversa di fare un certo tipo di radio che non è più locale ma esclusivamente un po' più ampliata. Ora, tu stesso quando ci sono la possibilità di fare dei DX li fai, quindi anche in te comunque il fatto di farsi sentire fuori c'è un po' la curiosità, diciamo che lì lo fai innanzitutto di autorità alla legge e dopodiché lo fai con un po' più di comodità e di possibilità perché c'è delle strumentazioni completamente diverse. Ci vuole una patente per il semplice fatto che questo se lo può comprare chiunque. Quelle lì sono radio che possono andare su frequenze, se non stai attento, diciamo, dove puoi creare problemi. Quindi per forza di cose ci vuole testa, o meglio, gente con la testa attaccata al collo. Riprendi Massimiliano. Positivo, positivo, là. Io non condivido tante cose però, non condivido tante cose, comunque abbiamo già parlato, non mi interessa polemizzare, là. Saluto a Claudio che è in QRT ma sta operando da altre parti, va bene così, là. Mi sembra aver sentito anche a Luca del Monte, Luca. Ma domani Luca da Porto Torres. Ah, io ho sentito anche a Luca poco fa, là. Sto facendo un po' di ascolto. Ok, va bene così, va bene così. C'era anche Luca, però adesso si sta guardando quei filmatini tutti su cosa? Su internet. Liuda, mi liuda! Ah, è da certo, Luca. Ci sono, mi sto ascoltando. Gianni, ci sei? Ehi, già ci sono. Che tanto, ho informato, sì. Avanti, avanti. Perché guarda lui, devo guardare pure io. Che mi vergogno, mi riguardo anche io, non è problema. Vediamo un po' se tu neghi che non riguardi, Antonio, vai. Vediamo un po' se neghi. No, io non nego, tanto è vero che gli occhiali li porto anch'io. Tu non li porti in giro, ma già ce li hai lo stesso, perché a furia di vedere queste cose toccarsi diventi cieco. E cieco tra un banco di vesti. Sì, papà. Capisci, beh, brava, è stata faticata a tenere cosa la serpente. Che schifo, aiuta, non si muove. Ma sta mangiando degli insetti, sta mangiando. Ma come cazzo fa questo qua? Come ci vuole coraggio, eh? Io vorrei sapere come sono i signor Galintirni mangiando tutte queste porcherie. Magari no, mio già, perché sono tutte cose naturali, altro che magari ce le ho meglio dei tuoi, proprio perché noi ci mangiamo roba dove ci sono conservanti e altro tipo di cose che davvero fanno male. Quella cosa con la tua, magari è roba che fa schifo, eh. Ma io mangiamo la merendina o qualche insaccato, ha dei conservanti, non lo sappiamo questo, comunque si presume che ci sono in mezzo a queste cose qua. Però lui si mangia queste schifette, ma ci vuole coraggio a mangiarle. Io non ce la prima, ma come devi farmi? Non ce la prima, questo è coraggioso, perché si mangia anche gli scarafoglie quanto pare. Poi, a me hanno insegnato una cosa all'università, facendo per l'ufficiale sanitario. È molto meglio un piatto pinghinoso, che l'indomani mattina ti fa venire la diarrea, piuttosto che un piatto lavato al sapone e sciacquato male, che a distanza di tempo ti fa venire la patologia allo stomaco, capito? Ti confermo, è vero. Ma va, posso chiedere una cosa? Eia, vai, Massimiliano. Ma il canale 10 ormai è stato abbandonato, non c'è? Cioè, questo canale 5 ormai è il canale monitor. Adesso, allora siamo qua, canale 5, che troppo ne stiamo ricordando. Posso saperlo, perché in genere noi sul 10 non c'è più nessuno e rimangono tutti qua sul 5. No, no, è giusto la curiosità mia. No, Massimiliano, dove capita ci mettiamo, poco fare sul 12, dove capita, dove c'è gente io mi fermo, perlomeno questa è la mia opinione. Allora, siccome prima si stava tutti sul 10, no, e adesso dopo di tempo a questa parte sul 10 è proprio morto e diciamo la gente rimane tutta su questo canale, no, era giusto un'informazione mia. Paga. No, vabbè. La risposta è quella, capito? Cioè, se capita, anche perché canale 5 la mattina magari potreste anche disturbare, ma la domenica cosa non ci sono manco camionisti, è difficile. E quindi cominciano dalla mattina, capito? Magari si trovano sul 5 e poi io ce l'ho già sintonizzato su quel canale, chiamo qui, magari mi rispondono e via, e comincia la ruota, capito? Sì, no, perché ho visto che da un po' di tempo questa parte il canale 10 è stato proprio un po' abbandonato, ma diciamo che prima tutti lì, adesso tutti qua, ma ok, un canale vale l'altro. Luca, dottor Antonio. Eia, c'è questo tipo che parla così. Ciao a tutti, buon divertimento, a tutti, buona serata, ti sentiamo, E poi mi fa. Ho fatto con la pagina così, no, con quello che ho visto, no? Lì nella chat. Mi fa, guarda, cosa c'è che non va? Cosa ha detto di male? Io sono sincero, cosa ha detto di male? Dimmelo. Ma è cazzo di caldo, girami le scatole, va al cinema. Comunque è un battimento, la canale 10, ma. Ma battimento? Allora? Ripeti. Ma perché? Che c'è il 10? C'è un battimento, ma c'è qualcuno sul 10? C'è un 10, aiuta, va! Ma tu magari vedi che anche prova, beh! Tu devi vedere cosa c'ha Walter Diabolik nel bunker. Io, grazie, cioè sono stato uno dei pochi fortunati che c'è stato, o dei pochi, di quelli che ha voluto che vedessero la cosa, ma non puoi capire già. Io lo capisco perché ci sono stato forse uno dei primi che li ha visti, quindi io non so cosa c'ha, c'ha degli armadi pieni di apparati, ne ha in terra, poi di fronte c'è la stazione... la stazione radioamatoriale eccetera eccetera. Ah, li ho visti, ma neanche l'altra parecchia figura. Ma tanto io li ho visti tutti la di Water, ne ha un bel. Ci sono già andato. E c'è un bel di radio. E di quella radio lì me ne ha regalato una. Era una che era arrivata, mi convinto che era nuova, invece gli hanno dato un mezzo pacco, ecco diciamo. E questa casa l'ho già fatto tutta smontata, pulita, diciamo, l'ho fatto quadrato, ho fatto vedere da lui, se capita poi la guardi, guarda come è uscita. Giulio mi ha fatto i fianchetti nuovi in legno, belli, è uscita bella, no, a fiammarsi, proprio guarda la vetrina, tutta pulita, guarda, verniciata, guarda, perfetta, bella nuova, e ce la usa ogni tanto, guarda di lì. È un, come si chiama, un, aiutami già, il nome è strano, già. Una cagata. No, diciamo che magari per un po' di colpi, va bene, però se la presa Roberto, tu me la tolta in fondo, questo qua io la con la radio lì, però lui se la usa, ce la tiene come berretta, ecco. No, sto scherzando, ma ti ripeto, questo era per dirti che anche lui, che è un radioamatore, al pari di Claudio, al pari di molti altri, non rinnegano il fatto di essere CB, perché parte di quelle radio sono tutte della 27, cioè tutte, parte di quelle sono della 27. Quindi assolutamente una persona non è che si nobili, te l'ho sempre detto. Massimiliano, tu non ci sei mai andato? No, negativo, io non sono mai andato. Io ho sentito poche volte qua nel 27, ma quando io sono frequenta poche volte, quindi questo io non si è dimenticato, va bene. Quello è che se tu vedi cosa c'ha, è come se a te ti dovessero dare un Ferrari e te ne stai giù. Lui entra, però è come se avere un Ferrari e metterti a usarla nel cortile sotto casa, capito? Se tu vai a vedere l'antenna che ha, è un qualcosa di boh. Io ti dico che non ce l'hanno neanche al Ministero delle Telecomunicazioni di Roma, una cosa del genere, ma a prescindere, se entri dentro il bunker, tu immaginati i pareti, sono quattro pareti. Saranno 10 metri per un'altezza di 4,5, con degli scaffali che sono completamente straripanti di radio, non v'è un luogo dove metterci un foglio, pieno di radio, non, guarda, per quanto adesso ti puoi immaginare è sempre meno di quello che è realmente. Una volta è stato uno dei primi CB, immaginati tu, che io ero un ragazzino quando lui modulava, già dagli anni 70, roba del genere, immaginati tu da quanti anni c'è, era 27, poi intanto già entra a salutare. Anzi, lui è quello che mi sprovava, mi diceva, ma cosa sta muovendo questa frequenza? Cercate di chiamare, di far venire gente, di far entrare gente nuova. La verità, lui ci tiene, no? Magari a volte farà ascolto e sta in altre frequenze, però alla 27 ci tiene. Assolutamente una cosa, ma i notifici sono positivi o negativi? Prova, Massimiliano. Negativi. Anche da negativi? K. Senti qui sono. E adesso? Positivi. Primo negativi, secondo positivi. Negativo, fischia quando positivo. Allora invece questo commutatore che sta andando a farsi fottere è come se come è commutato, ho sentito lo stack e si è andato da negativo da positivo e adesso è lo stesso, adesso dovrebbe essere positivo, vero? Si conferma. No, proprio tu, la roba vecchia non va più, questo è un coso, un Lodestar come commutatore, però è troppo anzianotto, là, diciamo che vorrebbe nuovo. Adesso sono a tu, positivi? Sì, K, se ti devi comprare lo sai che cosa, quella specie di rinnova circuiti che vende la GPC, gli dai una spruzzata e vedi che... e che te lo rinnova. Ce l'ho. Però vuole nuovo. Me lo devo prendere, là. Ma c'era anche Gianluca lì, la Porta Torre, c'era anche B2, mi sembra, l'abbiamo un po' lasciato in parcheggio. Vediamo un po' se c'è ancora... Gianluca, sì? E come no, Massimiliano, tranquillamente, mi sto ascoltando ben volentieri, non c'è problema. va tutto bene. Sì, c'è la B2, però non so dove stava andando, se stava andando a lavorare, la verità, non so, Ruggeri, ci sei? No, Gianlu, scusa se te lo dico, c'è questa alternatina sotto che è fastidiosa, non so come mai, ma un'alternata c'è, non so se la sento solo io. No, non me l'ha detto, però mi stava dicendo Antonio che non era proprio così, deve essere questo spirottino del microfono, adesso non so se lo sta facendo ancora. Più di me non l'ha fatto, ma comunque già c'è sempre. Gianni, ripeti. Beh, B2 non è venuto. No, domani ci dobbiamo vedere. Ah, ma che problema c'ha? Da te da noi esci. Sempre se detto problema il camper è così, Gianlu. Dove vai, non c'è piano riflettente, bisogna attaccarsi a qualche punto dove faccia un po' di massa, dai, anche con un filo, perché sennò non vai scida. Non lo so, ma mi sembra anche un pochettino strano che non si trovi una soluzione, Non penso che sia una cosa impossibile, ecco, tutto lì, di trovare il sistema e fare le cose giuste, tutto lì. Perché scusami, nella barca, anche se tu mi dici sì, ma beh, quelli lavorano, però che hanno, diciamo così, la visualità che non hanno nessun ostacolo, via dicendo. Però sono attaccati dalla resina a me, non hanno massa, non hanno nulla. Non so come il cavolo è, in questo punto qui anche il camper potrebbe essere come una barca. Che vuoi che ti dica? Non ci avranno qualche cosa di conduttore, boh? Non lo so come li fanno gli impianti nella barca, non ne ho mai fatto, però so solo una cosa, che quelle antenne lì in barca le piazzano, ma modulano il mare aperto, quindi è normale che non c'ha ostacoli. Dove trovo ostacoli si ferma. Mi aspetta che passo dall'altra parte, dai, così Massimo mi sente meglio, no? Vabbè. Scappa gatta. Avanti a chi tocca, Claudio. Arrivo subito, ora vedo un po' cosa posso mangiare ancora. Mi frasi bog. Come già? Già mi frasi bog a giudizio. Cosa vuoi, boh? Ma ci avessi avendo qui stacchi, c'è luci, sai già, a proposito di luci, mi sono mangiato un bel, qua mi hanno rovinato lo stomaco. A chi dai l'imbuccia prima? No, prima detto un bel tu, senza bere acqua, faccio due dietro l'altra, ma un bel ho mangiato, più di mezzo chilo. E credetevi che io non dico molto, ma quasi. Scherzando, se adesso nei prossimi giorni pisciando c'hai frigi è quello. No, vabbè, che adesso è Natale che lo mangiate, Natale capodanno, no? No, buono, è proprio buono, quelle noci. Sì, bravo, dai, andiamo su. Chi era questo portante? Ma sono stato io, non lo sono uscito. Si conferma. Sperassi che non sono uscito perché mi sta dando problemi sta microfono. Bisogna che anch'io li metta con lo spray di CT nel PTT perché a volte non esce. Andare. Comunque ha detto due noci al giorno ti fanno diventare la pelle liscia. Tu se ne mangiava un calascio. Adesso faccio il culo, ma tu pesi meglio. A chi credete? Mangiatore di noci. Ma che? Già mi piacciono poco già. Le noci però dicono, dicono che, vabbè, comunque mangiate troppo e fanno male, però dice che fanno bene al cuore. Fanno bene a tante cose, due al giorno però, non ho detto niente di bisogno. E praticamente vi sta ritornando la bilinchite, quanto? Se quella lì è brutta, perché non sai dove atterrare una volta che ce l'hai, ti vengono dei capogiri da paura. Adesso non so, che sapete si dice, praticamente non so se sia dalla artrosi cervicale o se sia la labirintite, perché come mi sono girato ho visto, mi sono sentito mancare proprio. No, me l'aveva fatto il soffitto che ti gira intorno, ma non è labirintite, molto spesso è gli ottoliti che hai nella chiocciola che si sono staccati, che sono delle ossicine che servono, che vanno su delle specie di vibrisse che ci sono lì all'interno dell'orecchio, dove proprio c'è l'organo dell'equilibrio. E allora lì bisogna fare una manovra particolare per rimetterle a posto. E la labirintite è quella lì. Ti mettono seduto sopra un letto e poi di colpo ti buttano da una parte e dall'altra. L'ho provata anche, stai dicendo che ho chiamato 118 perché mi sono sentito male da solo e vedevo tutto girare, non sapevo da cosa dipendeva. Gli ho detto sono un paziente diabetico, vedo tutto girare, muovetevi perché sto male. E gli ho aperto anche la porta. Quando mia moglie è tornata ad accompagnare il bambino a scuola, e mi ha trovato sopra la barella. Era successo anche a me una notte, mi giro a prendere l'acqua e ho visto proprio il soffitto che ha iniziato a girare, pensavo mi stesse venendo un infarto o qualcosa di... è lo stesso, ma non è una labirintite, perché la labirintite è proprio l'infiammazione e non i cavi e i piedi, allora li devi prendere, ti dura un po' di giorni e devi prendere antinfiammatori e tutto. Quello lì sono proprio questi ottoliti che si sono staccati e quindi devi fare una manovra, cioè come dicevi tu, metterti da una parte e dopodiché rigirarti di colpo e dall'altra. E dopo un paio di manovre ti dovrebbe ritornare tutto a posto. Ma il bello è che io l'ho avuto per un mese e passa, così capito, non è stato un giorno solo, di meno ma ce l'avevo. Il primo giorno però mi sono messo a riposare un po' pranzo e mi è capitata questa cosa qua, un bel brutto è perché non capisci dove stai andando, ti sbatte tutte le parti, mi sentivo perso, guarda, come se mi stessi sentendo un bel male. E niente, e praticamente sono degli ossicini al bagno, una specie di gel che secondo la postura che tu assumi si sballano e sono degli ossicini che tengono l'equilibrio proprio. Stai ripetendo quello che ti ho detto io? No, tu non hai detto che erano a bagno in una specie di gel, questo me l'ha spiegato un dottore a me. Vabbè, a prescindere, se non so dove sono a bagno. Comunque, così, secondo la postura che tu assumi, anche dormendo, ti può succedere. Avanti, Massimiliano, avanti. E già, le prendete voi, secondo il suo. Di solito ti succede quando prendi qualche colpo. Non ne ho preso colpi, Antu. Se stavo riposando dopo che sono stato a lavoro, sono andato a alzarmi per andare a lavorare, per cambiarmi, eccetera. E non riuscivo più a alzarmi, mi sbattevo a tutte le parti, vedevo tutto girare, un magazzino, sembrava che fossi colpi. Attento a mio hermano delle Spagne, della Scusia, all'isola della Sardegna, adelante. Attento Piero, è l'operatore Gianni Delta Romeo della città di Sassari, nord Sardegna, che ti super cordializza, in compagnia dell'amico Antonio e di altri mucci amici. Va avanti Antonio, te mando l'amico Antonio. Hola amigo, attento si escucha Sardegna Italia, la stazione del Grode, del Zorro, Marco Vannuta. Attento mi hermano, escuchado l'amico Grode, venite la propagazione. Qualcuno ha chiuso la porta, il portone si è serrato. Hanno aperto solo per il doppio rubo. Avanti a chi tocca, Gianluca, avanti. Prego. Distratto, avanti dai Giuseppe, buonasera. Yeah, buonasera a tutti quanti i componenti del canale 10. Buonasera anche a te. Come te la passi Giuseppe? Bene, con Riccardo è parlato al barattino. Idem come sopra. Gianluca. Luca non risponde. Riprendi Antonio per i saluti. Ciao Giuseppe. beh, tutto bene, ben sentito, ben ascoltato. Io ne approfitto un attimino per allontanarmi, visto che è arrivato Giuseppe, nel senso che non ti lascio da solo, Gianni. E riprendo fra una decina di minuti, che devo andare a fare una cosa, mi devo staccare dalla radio. Sicuramente vado in alta frequenza, ma perché c'ho la radiolina, capito, il portatile. Comunque quella cosa te l'ho ordinata, appena arriva ti faccio uno squillo, dai. Ci vediamo, ti do i soldi domani. Così almeno quando arriva ce li hai per pagarlo. Sono in QRX comunque, non c'è problema. Ci sentiamo dopo, dai, riprendo fra una decina di minuti circa, mi preparo nel frattempo. Hai capito, tu? Ci vediamo domani, quindi decidi che quando arrivo almeno ce li hai per pagare. Sì, perché mi mancano. Comunque, se me li porti, così impari, se stai facendo una portata ti dico, se me li porti fai bene. No, non sto scherzando già, ci mancherebbe, sono due spiccioli, proprio glielo sai che non è niente. Va bene, no, te li porto davvero, non c'è problema, tu. Già lo sai che sono una persona seria, che sono di parola, però dico una cosa la mantengo. Avanti, chi è rimasto? Luca, mi sembra che ci sia anche Lucrezia. Già, sono talmente convenienti quelle radio, che se non me la prendi per dire, se me la lasci e mi dici di no, che dice non me le dai più i soldi, non mi pare vero, perché qua te la rivendi tranquillamente al doppio, ma non sto scherzando. Vabbè, dai. Andare, ma a me mi interessa. Lo sai che il mio ricevitore si è mezzo, te l'ho detto che si è mezzo partito, quando mi alzano il volume entra lo scotch automatico e fa e lo devi abbassare dall'altra parte, è un casino, secondo me ha qualcosa. Ehi, ma me ne ero già reso conto, te l'ho detto. Ci sentiamo dopo. Avanti, chi è rimasto? C'è Giuseppe. Giuseppe, cosa hai intenzione di fare stasera? Cosa vuol fare? Niente già, nulla, negativo. Accorto di cash tutto quanto. E cosa vuoi fare con questo tempo? Dove vuoi andare già? Eccolo già, si sta bene a Calduccio, come i mandroni. Sotto coperta, nelle coperte. Cioè qua c'è il letto che sta dicendo aio pesannini e vattine, aio, che ci sei anche dentro un bel troppo. Dipende. Davvero dove? Sono ripreso. Ma ripeni, ma si vede, amica, tanto Giuseppe Leonci. Ehi, ok, ciao Giuseppe, ti saluto, buonasera. Aspetta. Un po' passino. Quindi già ho sentito che stai con il K? No, K, chi l'ha detto? No, ho sentito così. No, non il K, il ricevitore. Allora io pensavo che era 140, No, ma se dico la verità, mi piacerebbe averlo, ma adesso non posso, dico la verità. Mi piacerebbe averlo. Positivo e caparrogero, già va bene, già, vanno bene, meglio di, cioè un baracchino a sentina continua, come dice Claudio, e ti permette di andare da altre parti, ma comunque. E di più di un baracchino, molto di più, puoi ascoltare, lo usi come ricevitore, a tempo perso e cosa, quando non c'è nessuno per dire giri, fai, ascolta. È positivo. Vabbè, ma comunque il ricevitore vuole fare banda, non solo HF. Vabbè, lo so. Ma a me mi interessa il ricevitore portatile, perché io dico la verità, a tempo poco ne ho, e lo ascolto, metto in confidenza quando vado in bagno, me lo porto sempre appresso, capito? Quando mi faccio il bagno, ascolto e cose, e niente, lo uso così, capito, per farmi compagnia. Positivo, ok, riprendi Giuseppe, buonasera, ti sono un secondo che sta chiamando mia moglie, riprendi Giuseppe. Ehi, ciao Massimiliano, buonasera, ben sentito. Ti ho detto già, quella questione là è bella, vero, però è anche pericoloso. Se non si può usare. No, infatti mi piacerebbe, non ce l'ho, però è una cosa più completa, nel senso che per fare ascolti, io lo userei col tappo, a fare ascolti in base a tutto il ricevitore, non è che non mi dà fortuna, tanto io baracchini ce li ho, quindi non mi interessa uscire eccetera eccetera, magari qualche volta puoi farlo andare ma non più tanto, io ho questo qua che ti fa uscire abbastanza bene come senti, quindi non dà nessun problema. E cappa, già, oh yeah, è così, e va bene, chi c'era? Massimiliano, sì. Di Massimiliano Bumberdo, non l'hai sentito? Già l'ho sentito, ho sentito la chiamata della sua 50. E poi non so se ci sia qualche altro, poco fa è andato Claudio, però non so se sia il Corrix o se ha fatto un attimo, se magari è andato nelle altre bande, Claudio. Oh, Eia. Eia, scusate se avete chiamato, che ho dovuto rispondere al telefono mentre stavate ancora parlando, lo faceva aspettare, avvisarti, capito? E niente. Ma Antonio c'è ancora? Vediamo un poco. Non c'è nessun problema, comunque si sente una signorina che ride. Sì, e questo c'ho la televisione, sto guardando un film, ho messo così giusto anche solo a guardarlo, mi adesso abbasso il volume, se no non fa così. Dopo le cibo domani avete voluto un tempo come te. A toccare le mani dalle burroni. Ah già? Sto scherzando. Bollettino, vediamo un po' cos'è la burrasca. Ma mi sa di sì, è un tempaccio di veugi, una cosa ben strana, Se c'è vento la nave fa ritardo. Vabbè, quello sì. Poi andate lo stesso, anche se la nave arriva in ritardo, andate sempre a fare gli stessi orari. Ma non è che vi devo morire maniggia, che viene un'ora da voi, una giornata da voi, chi non viene, che di rotta a bavurde, a cose così, noi abbiamo i dubbi prestabiliti, uno entra e l'altro esce. No, ma pensavo che più poco per il traffico dei passeggeri, capito? Arrivando più tardi che smontavate più tardi. E già è vero che adesso Molo Asi, dove molta gente andava a pescare, è chiuso. Ma vabbè, che anche lui non ancora che riesce a entrare, già. Oh, ma dove però? Giù a tutti? Allora, dove c'erano i vasconi lì? Ancora c'è qualcuno che va. Non ho beccato uno che andava col gommone, buono, allucinante. Se ci ha fatto la capitaneria, davvero? Si dimentica che c'è da colore ai lumari? Dopo è pieno di veleni quella zona lì. C'è lo scarico delle petroliere. Quando tirano le pompe e capitano i varani e tutto di cose, di liquido, gasolio, cosa è, quello che scaricano. Tutto a mare. Tu pensa che quando partiva la nave, già lui, l'avrei visto. Si faceva la schiuma e stava mezz'ora a galla. Se te lo sto dicendo che tante altre persone ci credono. Infatti io sono detto due una cosa, ma come ti si vede la niente, non lo so. A pace un rischio, no? Ti sentono interdetta e tutto quanto. Comunque sia. La niente, le cose li sa, da voi non dica, ma io non sono. No, già lo sai che la legge non la mette in minoranza. Beh, vediamo un po', Antonio, ci sei? Ciao Gianluca, buonasera. Ciao Leo G, ciao carissimo, come stai? Si tira avanti, se ci lasciano tirare Gianluca, purtroppo siamo sempre a portare a capo, sempre quella questione là, siamo senza bene quella questione, oi. Piano piano vedrai, speriamo che questa piazza niente, cazzo, che faccia un po' guarito di capo in natale padre, perché se no succede qualche cosa di preoccupante. No, Antonio Grode non è? Antonio Grode con Rix. Ma va bene, allora andato via anche lui, no? No, Massimiliano è qua, avanti Massimiliano. Papà, ci sono, ci sono. Mi stavo trabasando, mi ha chiamato mia moglie, mi stavo trabasando un po' di vino. E ho ripreso, va. Vabbè, dai, poni quattro dazze, tanto. Massimiliano, io poni quattro dazze. Vino è fatto quest'anno, Massimiliano. No, negativo, no, non ne ho fatto, io non ho l'attrezzatura, capito già, quindi mi ho preso 25 litri e niente, là. E mi è rimasto ancora 5 litri e me li stavo travasando in bottiglie da litro. Arrancato il televizio. No, lo so, ma non c'è niente, sai, una bottiglia tira l'altra. È vero, ma deve essere che era buono, là. Sì. Era veramente buono, l'ho preso da Russi, da 2,20 e poi inizi 3-4 litri te li bevi a Natale, altri 3 litri a Capodanno e poi regali un litro a quello, un litro a quell'altro e alla fine te rimane poco. Io a Capodanno ho bevuto vino di Uisi, quello di Uisi è un bel buono perché io, il fratello della moglie di mio cognato, sono di Uisi e quando veniva la cena cosa gli portava quel vino, timbri a ghiaccia, perché quando basta un bicchiere ti fai avere la marrucola. E ho bevuto quello di Uisi di quest'anno, ma se guarda è veramente buono perché è amabile, no? È un po' dolce, quindi attira al palato e quando ne bevi due o tre bicchieri ti manda a K.O. Ah già, io la verità, io da Uisi l'ho preso una volta e non ne prendo più, l'ho preso addirittura da un mio ex collega che ne fa a vendere. Però ci mette troppo a fermavino e ti va del loro il capo. Infatti quest'anno non ne ha venduto quasi niente, capito? Ma proprio quasi nulla, e ne ha fatto mi sembra intorno a 800-900 litri. No, aspetta, questo qui praticamente è il cugino di mia moglie, è andato a vendemmiare con questo che l'ha venduto, quindi te l'ha data a gustare, tutto quanto, ha visto come l'ha fatto, il vino tutto quanto, l'hanno messo nelle botti, tutto quanto. Quando era fatto gli è andato a gustare, gli è piaciuto e se ne ha preso un bel po'. Ah, è veramente squisito come vino, lui non lo tiene in frigo, lo tiene in cantina perché dice che deve essere bevuto a temperatura ambiente il vino, che è sbagliato per lo freddo. Infatti il vino come bevuto così, io lo sto mettendo fuori dal terrazzo, fuori da casa. Se lo lascio a temperatura ambiente, giustamente sono precedenzate, non è che lo contiene a temperatura ambiente come un po' in frigo, però d'inverno io non lo metto mai in frigo, vuole lasciato fuori dalla temperatura sua. Ma lui c'ha la cantina proprio, capito? Lui lo mette in cantina e neanche di vecchia data, infatti a Capodanno solitamente apriva sempre quella di vecchia data. Quest'anno invece mi ha voluto far assaggiare questo, quell'altro, quell'altro, la fiordina di Guttu. Assaggia questo che vuoi, assaggia quest'altro. A parte che io non sono un grande bevitore, non ne bevo manco a pasta, solo queste riunioni di amici e cose sì, lo bevo. Ma se no non sono un grande bevitore, mentre mia moglie ogni pasto se lo bevo un bicchiere. Io già ti dico una cosa, io quando ce l'ho il vino, un bicchiere a pranzo o specialmente più a cena diciamo, che a pranzo mangio sempre il cantiere quindi non si fa bere, ma comunque me la porto sempre io tipo una di quelle bottigliette di birra, quelle col tappo che hanno la gomma, per farti capire, una di quelle lì, quando ce l'ho me la porto sempre, infatti adesso me l'ho travasata per domani e me la bevo sempre, quando non ho la verità non la cerco. L'altro giorno a Di Max, Massimiliano, non so se l'hai visto, hanno fatto vedere questo tipo con un bulldozer di quelli grossi che lavorava in un cantiere e si beveva una birra dopo l'altra, cioè aveva la cassa della birra e si beveva la birra, poi si divertiva a schiacciare le lattine con le ruote del bulldozer, no? A un certo punto da lui si diventa a e pensare c'era un bagno di quelli chimici. Ha fermato il bulldozer, è andato a pisciare, però si è dimenticato di tirare il freno. Il bulldozer era farato, ne farà, dovete dire a chi ufficiale. Adesso era molto. Sì, no, ma che? È quello che fanno vedere i mille modi per morire. Ho capito. Quella sposa che voleva fregare quell'anziano, se l'ha sposato, questa tipa giovane, no? Escono, questo era un riccone di quelli con macchina grossa, tipo una Rolls-Royce di quelle tutte scappottabili, no? Il giorno del matrimonio escono, cazzo, con il velo, questa qui con tutto il velo, correndo con la macchina, a un certo punto lui si gira per parlare, cazzo, gli si è attaccato il velo come correva con la macchina, il velo gli è andato alla rotta di dietro, tanto si è girato a farmi della roba, abbiamo allungato. Allora, da voglia fottito, no? Tanto di là non voglio più capo la tipa, perché il velo che ci aveva fatto non gli si è pigliato, non ha rotta di dietro. Voilà, ciaga. Mi era di là di un capo, però è capitato. È allucinante, fa anche impressione certe cose che fanno vedere. Sono cose vere. No, lo so. No, vi stavo ascoltando, non c'è problema. Ce ne sono tante cose. Per carità. Sei ritornato tardi già a casa oggi a pranzo? No, verso lunedì, così, perché la domenica mangia un po' più tardi. Ma sei passato al Ponte Nuovo? Al Ponte Nuovo, adesso questo sì perché sono sceso da cosa, al quadrato, sì. No, perché sono passato io verso l'una, meno un quarto, quella roba lì, c'era un bel incidente, proprio lì a quasi attaccata al tabacchino, al bar tabacchi, là lì, via Succi, cazzo mi... Se l'ha distrutta questa macchina, questo qua. Sia a Ponte Nuovo che lì succedono sempre un bel. Mi succedono, specialmente a Ponte Nuovo quando piove, mi succedono la bizzeffa. Anche se hanno declinato la strada, ti rovina le gomme, però molte macchine ci escono lo stesso. Come fare a curva a decidere? Stavo dicendo, allora questo era un fuoristrada con quella, come cazzo si chiama, della Toyota, l'ultima che era una Yare, hai capito, una Yare, ma tu dove volevo quella questa Yare, per carità, ho preso quella Yare e l'ho pagata direttamente al foro vecchio. Cazzo, un modello ha fatto la Toyota. Ogni giorno ne sta facendo una nuova queste macchine. Ma la Yare quanto sarà? Sarà un paio di anni già che c'è. Yaris, non Yare. Vabbè, Yaris, io chiamo Yare. Similiano deve essere si assentato. A chi tocca il vado? Che mi pare che siamo noi due. Ma se per lui hanno, c'è anche Gianluca Palottone, Gianluca. Se ne lo va sentato, poi se ne lo va al telefono. Mi pare vaga che vemmi la vedina, che gente sorridendi. Ho detto, mi pare Gianluca, vaga che vemmi la vedina, la gente sorridendo, una femmina, e dopo ci ha sentato, mi sta facendo pensare male. No, anni, ciao, scusa, no, adesso ho solo abbassato il volume, erano veramente al telefono già. In domenica diciamo, erano tutti, in frontiera non diciamo nessuno. Magari lavorano già lui. Adesso però quando si vuole telefonare a un amico si trova sempre il tempo, io dico la verità. Sono tutte scuse per dire che non ho tempo. Vabbè, ma già me la rendi dell'informazione, non la telefonata così giusto, non tanto a vedere come te c'ha zio, sentiamo sempre come ci bastone così, comunque sentiremo tutti i lì. Non ho problema, d'accordo. Scusando ancora nuovamente la ruota, dai, che mi sono un attimino assentato, così che adesso non so più chi c'è, chi non c'è, A ti pare, Gianluca, che scuse. Ognuno sa di sé, no, non c'è problema. Se capita così che lo può avvisare, anche a me succede, dico la verità, a volte non lasciamo in bianco, non posso avvisare, rispondo. Yeah. È tutto lì, va benissimo, dai. Massimiliano, Luca, la tua via è. Luca, Luca. Un attimo, siete sovramodulati, Gianni e Massimo, non ho capito bene chi era. Avanti un attimino che vi siete sovramodulati. Papà, ho detto Gianluca, se mi avete chiamato, ogni tanto c'è mia figlia che sta facendo un casino, quindi mi sta allontanando, niente. No, ok, perfetto. Avanti Gianni. Vabbè, allontanato, tieni Massimo. Positivo, sono fatto secondo. Niente, aspetta. Devo fare la pipì dentro. Hai Massimiliano, fai papà. Quanto sono spontanei i bambini, una volta per poco questo qua è venuto a casa a farci un lavoro, cade dalla scala dalle risate, quando c'era Manuela piccolina, per carità, detto ma cosa ha fatto prima dalle risate, detto vai a chiamare mamma che vi devo dire una cosa riguardo a questo lavoro. E Manuela si è girata, ma mamma sta facendo la cacca. Allucinante. Attacca il ridico, il sottraggio, poi li vuole dare il cazzo. E i bambini sono così, sono molto spontanei dicendo le cose. Non guardano se chi c'è, chi non c'è, prendono e dicono e poi se fa brutta figura, peggio per loro. E una volta veniva sempre questa rappresentante a casa, no, che vendeva questo ferro, non ferro, una piastra per stirare in Svizzera. E un paio di volte è venuta cosa, questa qua deve essere si lasciava i baffi, però si lasciava appena di pelo vicino al naso. E Manuela quando era piccolina se la guardava sempre cosa. Un giorno è venuta a casa e gli ha detto, Franca, e dice, dimmi Manuela, ma sai qual è il combo per un gatto? E lì, no, avere i baffi come tui, guarda, mi sarei fatto il fosso. Allucinante. Ogni brutta figura ma la consigliata. Guarda che è proprio hanno tradizione in fronte, cazzo ti devi fare cazzo un fosso proprio già scappi delle risate, però alla fine cazzo ti vergogni. Vabbè, infatti io prima ho riso. Prima ho riso Giuseppe, poi però ho visto la faccia di quella che si era mezzo offesa, sembrava quasi che gliel'avessimo detto noi. Io secco, guarda, se mi ti pugnavi con lo spillo non mi sei visto un goccio di sangue. Cazzo allucinante, per carità. Certe volte quando capita così. E ci sono i bambini che fanno certe battute e si diverti più con i bambini che con le persone grandi. È ripreso, Oh, io sento un rumore strano, un po'... non so da cosa dipende, se da me o... sento un po'... era qualche tirrenia che sta partendo. Tu lo senti questo rumore? Io lo sento. I ragazzi possono squarci, non c'è nessuno. Ha già regolato il termodulazione, devo che lo squarci. Sento molto meno, Gianni, da quando parla tutto lo sento molto meno. Perché manda la partita giù tutto. Volevo sapere, com'è la sua, ho passato un po' la potenza qua. Vedere un po' com'era il segnale, se ne ascoltavate bene tutti quanti. E a Vuglia. Ma non è Gianlu, che qualcuno a casa tua sta usando qualche trappano? No, io non sento nessuno, però oggi è domenica e dove faccio della lavare domenica? Vabbè, la gente ne approfitta anche la domenica a farci qualche lavoro, specialmente quando se lo può permettere, la domenica che giorno è riposo, piglia se ne vanti. Ah, Giuseppe, mica l'ha fatto la pizzeria sotto casa. Ah, vero. E io, tu porta anche a casa mia, dove c'era il circolo, c'era presente. E me? Non ha fatto una pizzeria napoletana. E ieri abbiamo preso le pizze, siamo andati a comprarle, c'era l'inaugurazione, dovevo fare solo le pizze per gli amici. Però mi ha detto, guarda, non è aperto, però facciamo finta che siamo amici e ve le faccio lo stesso, ce l'ha fatta. Ah, e com'è, erano buone? Sì, molto, molto buone, fatte bene. Io ho preso a tonno di cipolle, come al solito, io la prendo i frutti di mare e tonno di cipolle. L'ho preso a tonno di cipolle, bella saporita, buona, croccante, poi bella calda, soprattutto sotto gas. Ci sono il campanello, siamo da quello così, quando è pronta ci sono il campanello, ci ha suonato il campanello, non siamo usciti, ci abbiamo presa, perché tocca i servizi a domicilio ancora non lo stava facendo, capito? Ah, cappa, i prezzi come sono? Ah, guarda, sinceramente non lo so, perché ha pagato mia moglie, quindi non so come le abbia pagate, ma penso che siano abbordabili. Prova a andarci. No, la mia era molto buona, saporita, vabbè, io come la prendo io, sembrerebbe una cosa bisante, invece è molto delicata, con le cipolle buonissime. Cappa, stavo dicendo, ma la domenica aperta, no, non lo sai? Sì, penso di sì. Si mangia al tavolino, mi dite che ci sono tutti i tavolini, come le pizzerie grosse. Ah, cappa, allora, che ne sono? Riesci a vedere? No, 6:30 sono, ancora sarà chiusa. Ho preso presto per fare la roba. Niente, una buona cosa, andava sotto casa, prima c'era pizza a bispo, l'hanno trasferita, insomma, anche andare via la pizza, no, che fredda, no, invece così, c'era sotto casa, ci sono al campanello, e con pizza a bispo facevamo così, libertavamo i soldi, mandavamo l'ascensore e lui ci mandava le pizze su, manco se ne va. Ah, cappa, ho capito. Adesso vediamo come, per non prenderle sempre da Gis, quello della Valletta, certo, questa cosa ci sta leggermente impastardendo quello là. Però l'ho preso l'altro giorno e in pochi minuti che ce l'avevo ricevuto una trentina di telefonate, se quanto vende. E non so, ma non è buona come i primi giorni che io l'ho presa, il suo era bello tranquillo, adesso lo trovo sempre un po' acidino. E magari ha cambiato i pelati, tante volte per risparmiare poi lo si rovinano, perché magari ci sono appena operati da freddo e sono più acidi e fanno anche male. L'unico operato buono che a me piace è l'Antonella e il pomodorissimo. Io faccio il sugo con l'Antonella e il pomodorissimo mischiati, ma esce un sugo che è una canonata. E anche mia mamma fa così, anche mia mamma piglia il colore di Antonella e quello, come si chiama, quello imbottigliato, quello cilio. E io metto Santa Rosa, pomodorissimo Santa Rosa, quello lì lo faccio così. Una volta che abbiamo provato, come si chiama, non cilio, gli altri, ma i Doria, erano acidi, noi casa erano acidi, non mi sono piaciuti. Ho capito, a volte di questi pelati, sento molto io come sono, come non sono, che trovi buoni, è buona anche cose, quegli altri, quelli qua frutta. Gli Antonella sono sardi, Giuseppe, gli Antonella sono di coso, di quello che avevano rapito di scampo. Ho capito, no, quelli sono buoni. No, di solito se non c'è il cilio pigliamo quelli di qua frutta e sono veramente buoni. Quando fa i ravioli oppure fa la pasta a forno, è il sugo, è veramente ottimo. Il sugo è quello che comanda tutto, se c'è il sugo acido si può lampare tutto quanto. Quello che comanda è quello. Ci ha tolto dal sugo. Avanti il sugo e il formaggio. Avanti già lui. Va bene, se Antonella ha ragione, è veramente buono. Lo prendiamo anche lui. Anche Cirio, qualche cosa del genere. Cioè ce ne sono pomodori, ma quando capita l'opportunità di prendere dei pomodori freschi, la verità, nel periodo appunto che si trovano, lo facciamo ogni tanto, dai. Facciamo il sugo di pomodoro fresco, veramente speciale, ecco, pomodoro fatto passato subito. Ci sono che sono fatti in casa, non è buono. Mia suocera li fa, se li fa in casa, se ne compra quelli due cassette, tanto per loro due, e qualche volta qualche bottiglia ce l'ha, ma è una cosa tutta diversa, il sugo fatto con quei pomodori lì. Lo senti quello tipo fruscio già? Sì. E deve essere cosa che c'è nell'aria. Roba che c'è nell'aria sicuramente da temporale. Tappa. Già lù. Già. E fate le salute anche no, un voi ma comari. Un po' con i TV, un po' da internet. E cosa vuoi che facciamo già a internet? Cosa vuoi che facciamo? Travaglio, Gianlu, travaglio. Internet e travaglio non so cosa dire me. Ma vediamo, lavoro offerte. Lavoro offerte. Questa vedete. Anzi, mi ha fatto una lacca, ma uno con marino dove è vicino, si sta mangiando. Cosa già? Cosa era carino, mi ha andato in vicino, ma mi doveva pagare la bicicletta, doveva pagare, no? E niente, siamo passati in giro, mi era detto, scusate, in alto un cucino, no? Poverino. E poi mi arriverà qui, in gistanti, no? Di nasce, tutta di nasce, no? Mi c'era in gistanti, grazie a te, allora che cosa, non si sa. E le bambiamo, siamo qui tutta dentro, tutta in alto un cucino, qui. Lo faccio una casa, tutta se ne rimane in piedi. Un braccio mi rimane tutta di nasce. E una specie di cose in paglia, uno, una specie di piettino, va via, un cestino. E un cucciucciareggio in chigliato, no, e la niente bastava, la rete va già bene, la fava di minuti, no, e la tiene in cura leva e che cose così. E la rete può fare, non è guia le muti, la poveraccia, no. Allora cazzo, ho fatto insieme la vita con me, perché non è che io penso che mi non si riesce a chiedere con le mani così. E poi mi scrivo un cartello, me l'ha preso al collo, di non darmi, perché non voleva né andare a mangiare, né a bere, non voleva soldi, capito? Non voleva, mi dice così, non voleva poveraccio. E allora cosa si è buttato a fare il chili? Era le cusate, si è basta. No, era il chili, così tu rimani gissati, ma le due, la gente di tanti no. E allora mi ha detto, no, grazie, guardi, non mi servono. Allora se fanno che i chili no, fanno cazzo e fare tutti la stessa cosa, no? Sono fatti il chili, un cancello di cartone, mi ha detto, non voglio soldi, non voglio mangiare, non voglio la bene. In fine dei conti della passione lo tempo, dai, buonasera. Ciao, sa. Ciao Sandro, buonasera ragazze. E ogni tanto sento un paura. Ma chi è che dice che non vuole i soldi? Sa, al giorno d'oggi. Ciao Gianluca, buonasera Gianni. Mi sembra che ci sia Giuseppe pure, mi sembra. Poi mi correggete se mi sto sbagliando. Ehi, vabbè, ecco Dio. Oggi si trova di tutto e di più, chissà che le sue idee, quale fossero, ma vabbè. Infatti. Boh, non tanto se ne ha paura uno. Magari non era manco giusto, va, se no non si bulla neanche io. Io ci arrivo giù giusto e bullerei di una tre. Ma la cosa ufficiale è che la gente sai, comunque a parte l'elemosina. Le dati di un euro, 50 centesimi, si fa. E tu proprio se la fate il credito, quello male che sente, vi prego, non mi date soldi, non voglio i soldi, non voglio da mangiare e non voglio niente da bere. E se sei seduto lì forse per riposarsi, perché era messo male, già ne so. No, era un mendicante come ti dico che era tutta di questa cosa, però non voglio né a mangiare né a bere, ma di là non voglio nulla. Non voglio, una cosa è peccato. E voi ce n'è questo uno in Via Italia che ci aveva due conigli, uno dentro la gabbia e uno ce l'aveva libero che girava attorno a lui, non è che si muoveva più di tanto, girava vicino a lui e tutti quanti si fermavano, ah che bellino il coniglio, e lui chiedeva le limosine, no? Quando... E poi ho scoperto che questo qui viene vicino a casa Giuseppe a dormire, se ne va in quei cespugli di quella strada nuova, c'è una bicicletta con una specie di carrellino con il coniglio dietro. Ho capito, ma avevi già detto già quello là che si metteva sotto quell'albero dove ci siamo fermati una volta noi a parlare. Esatto, quello lì se ne va tutto il giorno in giro a chiedere le musiche, poi se ne va a dormire lì dove è passato il giorno che ci eravamo noi di notte. Ho capito, già. E cosa vuoi qua, lui ha, per carità, anche quello, la sua croce ce l'ha. Lui ha, secondo me non sono scelte loro. Per dire, ce n'era una a Porto Torres che chiedeva l'elemosina vicino al negozio. E un giorno ha tolto il giornale, questo qui era un pilota di aereo addirittura. E poi ha avuto una delusione d'amore e c'aveva l'articolo del giornale, c'è con la sua fotografia e tutto quanto. E questo qui è un pilota di aereo, addirittura è finito così, è diventato un barbocco. Una delusione d'amore, cosa, ha mollato tutto, lavoro quanto c'era e si è andato a girare per il mondo. E non era manco italiano, era ungherese, non so, qualcosa del genere. Quanto domani io, cazzo, ma è perché allora ero sotto risposta, mi ha urlato la mia ex moglie e per quello cazzo mi devo cazzo, andare a fare il barbone, manco l'anticamera mi deve essere passata a me, io la vita mia me la voglio passare tranquillo e andare avanti e poi un domani se il coso gira anche per me. No, infatti, stavolta non gira male a questa parte, avanti Sandrino. Sì, capo, vabbè, ognuno ha le sue pecche, ognuno ha i suoi modi, ognuno ha il suo modo da fare, ma se a me mi è capitato adesso, forse dopo l'estate o cos'è, lì alla Conad, arrivi, parcheggi, e ci sono, diciamo, sono loro, diciamo che anche loro saranno scelte di vita, saranno, non lo so, però insomma, ognuno è liberissimo di crearsi la vita come che meglio crede. Sai che delle volte come ti vedono arrivare, si mettono nel parcheggio libero, ti fanno segno per parcheggiare, ma io l'ho visto, da quanto mi sono parcheggiato, mi fermo, da quanto vedo che mi aspetta. Ciao amico, io appena arrivato in Sardegna, hai detto buone vacanze. No, non vacanze, lavoro, dopo lavoro. E che lavoro fai? Ah, qui parcheggi. Ah, ha detto, sei assunto dal comune. E a Napoli sono tutti così, a Napoli ci sono i parcheggiatori abusivi. Sì, no, lui stava parcheggiato esatto, cioè, ma ha detto va bene, ha detto e cosa vuoi? Compra qualcosa per la prima mano, ha detto no, non devo comprare niente, non mi serve niente, non devo comprare di niente. L'ho mollato, sono uscito, allora comprare qualcosa, ti ho detto di no, che poi il bello che sono assillanti, capito? Arrivo da un certo punto, ti danno anche fastidio, perché dà fastidio. Niente, nulla, mi sembra che avevo preso del pane, tutto quanto entro la busta, tutto quanto prendo un panino, e tu tieni, no, io pane niente, ce l'ho, soldi, sì. Sì. A volte sono insistenti, una volta mi ha fatto pure incazzare, qua. L'ho mandato in quel paese perché io di solito mi comporto bene con le persone, però quando diventano pesanti, tu bella moglie, questo e quell'altro, stavano entrando troppo sul sottile e quindi ci ho mandato in quel paese, capito? Vabbè, ce ne sono insistenti, ce ne sono... A volte io sa, penso che non siano solo scelte di vita, che siano cose magari... che siano cose magari che siano venute dopo qualche delusione, qualche cosa, boh. Già, vanno a capire. E vanno a capire, diciamo che hanno una mentalità completamente diversa dalle nostre, cioè capisco che anche loro abbiano diritto diciamo di lavorare, abbiano diritto di vivere anche loro, non lo metto in dubbio. Ma insomma, a parte che se non sbaglio mi sembra dalla comunità europea, questi qua mi sembra che siano anche aiutati. Adesso non vorrei, come diciamo, tipo gli slavi, gli zingari, che hanno un sostegno, diciamo, dal comune, quindi sono aiutati. Perché adesso, giusto per andare in tempo, lì dove abita, lì a Parma, dove abita la sorella di mia moglie, abitano quasi 15 anni, ci abitano lì, e a fianco ci sono questi appartamenti che sono affittati, c'è un extracomunitario con famiglia, mi sembra sono 3 o 4 bambini, sono aiutati dal comune, i bambini vanno all'asilo, il comune gli dà il sostegno per pagare l'asilo, però intanto lui ha 3 macchine, c'è un appunto, un Mercedes e poi un Audi, e tu credo aiuto. Io l'ho visto in piccolo la cosa. Quando io vado a consegnare la Caritas, ho visto questo qui che si era cavato le sigarette e va via Marlboro, e tra me ho pensato, cazzo, non c'hai i soldi per mangiare, prova a pigliarti la Marlboro via, e pida di il tabacco e fatte le sigarette per dire, no? Lo so, purtroppo guarda, ce n'è di tutti i colori, oi, per carità, poi prendi giallo. Io anche quando vanno là, perché se no si avvicinano che vogliono, io mi dico che hanno a Piero Carrello, no? E dice bene, quelle cose che se vuole bucare il Carrello, vabbè, poca di tiro, è dritto con la rondella. rimangono un po' di succo dopo, logicamente, mamma mia, che povera. Giuseppe. Ciao Sandro, buonasera. Ciao Giuseppe, buonasera anche a te, dai. E allora, com'è? E com'è? Si tira avanti, se ci lasciano. Tornando al discorso di quella gente lì, qua, venerdì sono andato insieme a mia madre a fare la spesa, LD di fronte a Canica, e c'erano queste due zingare o roba erano. Dice, c'è una moletta per campare mio figlio, questo qua, boom, altro qua, mi dispiace, in questo momento non ne ho. Come siamo usciti? C'hai qui, alta solo, te l'ho detto poc'anzi, non ho molette, mi dispiace. Attenzione che non tenisci le luci a te e a tutta quanta la tua famiglia. Hai capito? Bestemmiando, fratimenti. Allora Giuseppe, no, non si bestemmia. Non si bestemmia, Giuseppe. Carità. Ehi, la preceduta solo. La zia si abbigliava. Sì, ma no, ma se a te ti dico, cazzo, che non c'ho niente, basta una volta, ma non è che alla seconda volta quando mi vedi, cazzo, non devi approfittare, e alla fine, ma mi è riuscita, attenzione non ti la canna a te e a tutta la tua famiglia, e l'ho preceduta io, e mi faccio pensare a ridere. Vabbè, dai. Va bene, oddio, per carità, anche loro avranno diritto, anche loro, diciamo, però insomma, se l'hanno scelto loro, se l'hanno scelto loro questa vita, no, già ce ne sono dritti, ce ne sono furbiti, tutto quanto, lì, ma adesso a me mi è capitato io già, in via Pascoli, dove c'è il Cobec. stesso, dai, che entri da sotto, che ci sono i parcheggi grandi, tutto quanto, quest'estate era. Arrivo lì col furgone, mi parcheggio, scendo perché dovevo, perché liscio, diciamo, i punti, diciamo, mi controllo, diciamo, quello devo controllare, sono uscito fuori, mi serviva del materiale, mi ho preso un carrello, ed era vicino a me, perché proprio nell'ingresso vi sono i carrelli, e il furgone l'ho parcheggiato lì, e lui docchiando, guardando, infatti me ne sono accorto che lui stava a Roma, e ho preso le buste dove c'erano le palline, dove per caricare il distributore, e si è avvicinato, come si è avvicinato, allungando il collo per controllare dentro di, il furgone, gli ho detto, tutto a posto, ti serve niente? E lui mi fa, no, no, io curioso, e ho detto, allora hai sbagliato, tu sei curioso, ho detto, vai, siediti dove ti devi sedere, vai. E lì ci sono anche i chiusi, c'è l'entrata, c'è quella che vende tutte le erbe, le cose, le bietole, e poi ci sono sempre dei chiusi, ci dice. Sì, sì, c'è quell'anziana, quella signora anziana, non sbaglio sia di Sosso di Sennori, che si vede, che vende sempre le lumache, bietole, il periodo degli asparagi e così via. Sì, no, no, c'è un bel di gente strana lì, c'è un bel di gente strana, infatti quando arrivo a quel punto lì sempre cerco, diciamo, di posizionarmi un po' lontano, di aprire e far vedere il meno possibile, perché di questa gente, guarda, venne a bizzeffa. Dove ce l'hai, all'interno o fuori le macchine? No, proprio dentro, lì a, come si chiama, dentro, all'uscita delle casse. Ah, ho capito. Beh, io quella lì è una zona che conosco un po', Io mi tapasso anche il cuore da ragazzo, quindi. Sì, sì, insomma, quella è un po' una zona un po' così, una zona un po' così, tutto quanto. Invece ne ho sempre il Cobec lì a Lateroce, presente il Cobec da Lateroce? E come no, via Chiarini. Bravo, esatto, via Chiarini. Se arrivo una sera, sempre d'estate, siccome era dentro, no? Ci sono due distributori lì, erano dentro, fate il capo dei commessi mi fa, dice, ma se lo mettiamo fuori questo e quello e quell'altro, detto, se lo mettiamo fuori. Ci mettiamo una catenella, li leghiamo con un passello, magari giusto per essere più sicuri, non si sa mai. Siccome c'è tutta la videosorveglianza, lì ci sono le telecamere, il contatto, e vabbè, proviamo, e facciamo questo sistema, ti porto un lucchetto, da più rimetti il lucchetto, diciamo, ma vabbè, passo dopo una settimana, tutto quanto. E vedo il distributore, visto dove c'è la, mi sembra che ci sia la posta, la manca lì, giusto? La? Più sotto lì del Cobec c'è, mi sembra, l'angolo, una posta, una manca lì. Sì, c'è la posta. Se non ti voglio il distributore lì all'ingresso della posta, te ne ho staccato. E se non gli avevano messo la catena con l'occhietto, adesso mi giro l'occhio lì, perché sai che c'è un pezzo di divieto lì, non per arrivarci. Mi giro l'occhio e ti vedo, i distributori alla posta, e ti cassi di lasso i distributori. Ma te ne hanno svuotato? No, diciamo che poi sono andato a chiedere al responsabile, siccome il responsabile lì li cambia in continuazione, no? Non sono fissi, il responsabile, diciamo, del supermercato, e in effetti si erano dimenticati, dopo quando vedete adesso qualche grande, qualche ragazzino, o per gioco, perché cosa l'ho preso, perché siccome c'hanno lo vuoto, no? L'ha preso, l'ha posizionato lì, e dove? No, c'era tutto, non era scassato né niente. Perché lì, anche lì c'è colombo di gente tossica, occhio. Lo so, sono tutte zone un po' particolari, caso, per dirti, ce n'è di tutti i colori, Avanti. Ripeto, scusate questo intervallo lungo. Ma è di quell'X? Diciamo che alla fine mi sono messo in quell'X perché c'è mia figlia, sta facendo un po' di capricci là, quindi adesso l'abbiamo messo un po' di cartoni e che sta guardando nei cartoni. Va bene, Sandro, buonasera. Oi, buonasera, signor Burgozzo. Non mi aspetta, che mi metto nel cuscino, eh? Sì, sì, si mette a comodo, si mette a, a suo agio, vai. Finalmente vi posso sedere due minuti. Gava gava, ieia, va bene, va bene. Dove sto andando, Sandro? Ma da parte mia ti ascolto bene. Ti ascolto bene, segnale buono, tutto ok. Ma se mi ha detto questa pippì è proprio lunga, perché ho sentito poco pacchetto, papà, la pippì devo fare. No, babbo mi chiama. Sì, perché la mamma diciamo che era al telefono e quindi l'ho accompagnata io a fare la pipì. Dopo ho detto, guarda babbo, lascia un attimino il baracchino, vieni a giocare con me, quindi me l'ho giocato un po' sul letto, diciamo. E niente. E dopo ho detto, guarda tu un po' di cartone e babbo va a farsi due chiacchiere al baracchino. E ogni tanto lì quando trova il microfono, senza che neanche io me ne accorga che la sua accesa qui, entra, piglia, entra, saluta. E Marco è lo stesso, si accende l'apparato, tutto quanto sa tempo, si era memorizzato tutto come fare accendere e tutto. Ogni volta stavo trovando la Budi, stavo parlando, non mi ricordo con che fa, papà, break, break. E io, Marco, spegni i baracchi con il gallino che ha combinato. È positivo, là. E va bene, chi c'è già? Tu, Sandro, poi? E Giuseppe. Positivo, va. Sandro, apri il microfono per girare. E anche Gianluca. Via, va bene, va bene. Lì quando sono bambini diciamo che la curiosità è troppa, quindi, ma sì, ma meglio sempre lasciarli fare, dai, sempre a un limite. Va bene, Gianluca. Via, sta lì. Scusate se avete nuovamente chiamato, hanno giocato da chiamare, poi, va bene. Niente di che, comunque, questo discorso, Sandri, e me l'ha contato, verrai a Giampaolo? No, no, Gianlu, no, no, non glielo ho raccontato, diciamo, in frequenza mi sembra un po', non lo so. Vabbè, no, Gianlu, Sandro, no, pensavo che fosse andato a raccontarglielo, perché io lo so che magari c'è un po' di cosa, ma, no, ma infatti no, che non convene, dai. No, no, quando capiterà magari che il mio vicino glielo racconto un attimino, dai. No, diciamo che sono delle esperienze un po' toccanti, dai. E toccanti anche ti turbano perché a un certo punto lì si mi da un poco, eh? È puro dietro questa cosa qui c'è la fede, è tutto lì. Va bene, va bene. Avremo occasione di raccontare anche altre esperienze come abbiamo sempre fatto. Allora, avanti Gianni. Ma papà se avete molto in curiosità il baro, eh? Lo so, come la curiosità è femmina. Sì, è pure un maschio. Io quando sono andato a Roma, a Gianluca, una cosa mistica, guarda, ci hanno portato in un posto dove c'era a Livorno, dove c'era questa grotta con una Madonna. Come tu entravi lì ti sentivi, una cosa un po' strana. Te lo senti addosso proprio, capito? Ti senti leggero, ti senti... praticamente c'erano tutte le lettere in questa grotta della gente che chiedeva la guarigione, che ringraziava per essere guarito, eccetera, eccetera. Ma una cosa, indescrivibile. Insomma, chiedo di Sandro è una cosa del genere. È stato, vabbè, comunque già capiterà che già vi incontrate, già te lo dice. E capano, vabbè, ho capito che era più o meno una cosa, perché io e mia moglie siamo rimasti incantati, dicevo, ma come ti sei detto, mi sento leggera, mi sento una cosa libera nell'animo proprio. Dai, sì, vabbè, diciamo che sono delle situazioni un po' particolari, ma diciamo che adesso non è niente di particolare, quindi non sono dei segreti, diciamo, non sono diciamo quant'altro, anzi secondo me diciamo è buono anche che se ne possa anche diciamo, di queste situazioni qua, anche se di adesso con l'altro giorno con Gianluca glielo ho riferito, anche se ti lascia, diciamo, un po' perplesso, diciamo, un po' sul chi va, ma adesso, diciamo, a fine d'anno abbiamo deciso, diciamo, io, mia moglie, mia figlia e mia genero di andare lì, a mia cognata, di andare. C'ho il telefono che mi squilla. Guardi Gianlu, riprendi, poi fa già per Leoncino, anzi riprendi tu Leoncino, che c'è da volta senza parlare. Leoncino Caput, riprendi tu Gianluca, io ho un attimo di corista. Quando è risposta il tanto danni. Ma lui bene mi ascolta a me con questa radio, sì. Al 100%, 9,5, abbondante, 9. Sì, no, neanche 10 watt è importante, invece, eh? 8 watt. Va bene, ok, sì, anche tu stanno bene, sì, con K. No, negativo, adesso ti ascolto con una cosa in digitale. Allora, no, solo con lo Yaesu. Ma cos'è? Questo è il GX2, 757. Ah, ok, quindi stiamo usando la stessa radio, questo non è il 2, questo è solo il GX. Ah, sì, il fratello, diciamo, dai, sono quasi identici, una qualche stupidattina c'ha, il cambio delle bande sembra che sia questo qui a tasti e quell'altro è a manopola. Va bene, se 9,10 per l'esattezza. Allora, questa radio, da quando l'ho sostituito i finali, Gianlu, c'ha dei picchi allucinanti. Cioè, con 10 watt supera 50 di picco. Boh, ma passi. No, già così. Allora, questo qui ha 5 watt adesso. Parlando normale, sta di 15-25. 33-35 watt, così. Adesso, a portante fissa, ascolta Massimiliano, visto che stai facendo questo controllo, a portante muta, scusami, quant'è? Così, guarda, Non arrivi a 8. Non arriva a 8. Invece, fischiando con i 6 watt, il picchi a quanto salgono? Prova. 9,5. Ecco, 9,5, a quella non aumenta, va. Com'è adesso la portante fissa? No, la portante fissa sì, quasi 9. Ok, quasi 9. Prova, e poi a modulare, prova, 1, 2, 3, prova. Non lo sai neanche più di tanto, non arrivi a 9,10. Quindi alla fine non conviene sollevarlo, vuol dire. Sì, però questo qua è un po' sofferto i finali, bisognerebbe che lo controlli bene con un wattometro serio e controllare quanto stai rodando, perché se ritrovo che costa una cazzata gli ricambio, perché la radio mi piace, ha una bella ricezione, fenomenale. Allora, i finali, se tu li vuoi, con la radio, tanto monta, il 2879 Toshiba. Questo te lo posso garantire, usa, cioè, gli stessi finali di qua. Allora, se tu li vuoi, io ti do il numero di questo radioamatore, se tu lo chiami oggi, martedì, allora di pranzo c'è il finale, 26,01. Sì, 28,79, aspetta che riabbasso, ok, perfetto. 28,79, 28,01 cosa, no? 26, monta con la radio lì, monta il 28,79 Toshiba. E ce ne vogliono due? Ce ne vogliono due, bravo. La spedizione? Spedizione è 6 euro. Aspetta, sono piccolini, vero? Non sono ingombranti, dentro la busta li mette? Ah, lui a me me l'ha spedito come documento a mano, capito? Per quello che, per esempio, io gli ho ordinati di lunedì e mi sono arrivati il mercoledì all'ora di pranzo, un giorno lavorativo, diciamo, eh? Capa di Roger, mi sta giornale, sì, forza Pino Vittoria. Positivo. Oh, io li ho sostituiti perché uno sbatto di tensione qua a me me li ha fatti, me li ha sciolti, capito? E quindi, siccome mi dispiaceva metterla e lasciarla così, l'ho rimessa a posto con 60 euro, già ne vale la pena. Però adesso, visto che io ti ho fatto questo controllo, adesso te lo faccio anche io. Allora Gianlu, così sono con 5 watt, mi dici portante muta quanto è? Dove è spaccato, sì. Così con 5 watt, è modulati, guarda a vedere. 6, 9, 5, 9, 10. Con 5 watt, figurati. E tu poco qua quando l'hai portata, poi quando ho aumentato? Non te lo saprei dire, perché io l'ho messa a 5, qua è a 20, non saliva di più, perché sicuramente sono sofferti questi alimentari, queste cose qua, modulati saranno a 30, 35, però i picchi io li vedo salire, arriva quasi a 40, quando è tutta a manetta. Aspetta, ma ti volevo dire, se non avessi regolato bene dietro però, questo non lo so, sa, Massimiliano, perché dietro hai visto che c'è il car? Sì. Il suo coso bisogna controllare, ma siccome io non mi fido che non la conosco. Ma faceva così. Allora, questa con 5 watt. Ciao. Picchi di 50 lo stesso, con 5 watt. Quando io la metto questa qua a 8 watt di portante muta, sarà oltre 50. Così, con 5 watt. Ciao, picchi di 50. Valuta, stiamo parlando, giustamente, perché dopo nelle altre bande, Massimiliano si sa che sono più forti, anche i picchi sono diversi, bisogna provare l'FM. Senti, io non ne parlo qua in AM, aspetta che la riporto a 8 watt. Eccola qua. Già non quelli sono 10 watt neanche, 9 watt. Sono oltre 50 così. Però si vede che ci sono i finali nuovi, perché ti dico una cosa, questa radio quando la stavo usando prima con i finali 20, la mettevo così a 10 watt e non saliva, non arrivava neanche a 50 di picco, capito? Adesso proprio li supera abbondantemente. Sì, sì. Ma in AM è così, si sa che c'è questi che escono sempre basse queste radio rispetto alle altre bande. È positivo, allora comunque questa picchia forte, no, ma comunque c'è una bella ricezione questa radio, ecco cos'è il bello. Comunque io adesso ti sto ascoltando senza preamplificatore di antenna, No, io ce l'ho inserito, la radio però è buona, cavolo, c'ha una radio, questa radio, questo baracchino, anche se è antico, guarda, è una cosa fenomenale. È positivo, aspetta un secondo, se mi ascolti. Via, avanti Sandro, Leucino, via Gianlu, sono qua in macchina. E dove ti sei fermato? Ho stato a casa di Gianni per chiedere quanto costava quella cosa là. Iniziano verso l'accettamento 8.15 a incominciare a fornare, però non lo so adesso, non lo so se la vuole mia madre, boh. Non le hanno ancora consegnato i volantini a questi qua, boh? Non ho capito, cazzo, boh? Per sé se sono. No, Gianlu. Dimmi, Massi. Ma dicendo, tu hai adesso il preamplificatore inserito, quello della radio? Sì, c'ho il preamplificatore inserito. Quanto tu arrivo io con quello inserito? Inserito sei abbondante il 9. Allora, adesso... quello dovrebbe farti guadagnare 20 dB, Allora tu sei 9 più 5, adesso io proprio il sedile mi fa un passaggio. Infatti, perché così tu a me praticamente mi arrivi 7, 5, 6, dopo sali a 7, 7 e mezzo mi fa preamplificatore spento, sale di 2 dB, un M. Ciao Gianpaolo, infatti stavo, se no io uso sempre, perché quando parlo con quelli di Sassa li voglio vederli che arrivano bene alti. Allora, ciao Gianpaolo, buonasera e ben entrato. Allora Giampa, Gianlu. Sì? Sì. 9:15 a picchi di 20 con preamplificato del silizio. Ecco, figurati, a 5 watt, cioè quello che mi segna adesso, che io ho girato il potenziometro, l'ho messo a 5. Adesso guarda, adesso che ho aumentato, prova. Vai da 20 a 22. Cazzo, luda luda, Oh, sono contento, già va. Vecchia, eh? Ancora già guideggia. Avanti Silvio. Vabbè, perché ti riesce a fare la doccia? Dici, 70 andrà così, con 10 watt di portata bianca o giallo, 70 di picco. Lui dai. Che paura che non fuma. Va bene. Oh, Gianlu, poi bisogna vedere se questo smitter è giusto, io ti parlo solo quello che segna qua, Io. E da dietro ci sono delle cose da vedere, bisognerebbe vedere con qualcuno che sa indipuri un attimino e dare una regolatina per i segnali e tutto quanto. Soprattutto il car per l'ingresso dove c'è scritto car AM, quello lì. Car AM, cosa vuol dire? Car AM? Infatti. Non sai cos'è Gianluca, non c'è gente competente a sistemare questa radio, qua a Sassari parlo, non c'è gente competente, no? Ciao Cla, no questa qua io dopo l'avevo ritoccata qualche cosettina accidentalmente, questa qui l'aveva messa a posto Carlo Bianconi a Bologna, che gli aveva sostituito il coso della, era entrato allo stesso tipo come te, una carica elettrostatica, e mi aveva vicino un diodo vicino all'antenna e mi arrivava dei segnali 3-4 dB in meno rispetto a come mi doveva arrivare, capito? Però del resto era a posto. Ciao Giampa, io. Thank you. esce dalla frequenza come se gli sia di un gomodo. Non è vero, era bravo. Cosa è? Prima mia, te, mi. Non ti posso piazzare più in buco d'oro, eh. Oh, Gianlu. Sto scherzando. No, velocemente a vedere che stavo guardando Antonio, stavo scannagliando su internet. E stavo guardando tutte quelle cose per i radioamatori, no? Le, come si fa, i quiz, le cose, i misteriali, insomma, vuoi sapere cosa dovevo guardare più che altro, dove era proprio quello che faceva la specifica. Gianlu. Sì, avanti. Ma non sai cosa fate, niente, è proprio Giallofi, no? C'è una bassa, faccio il correttito, faccio una cosa, e la poi non andava a fare questo altro avanti. No. Allora, se ti riferisci a me ti dico la verità, perché la frequenza ce l'ho su portatile, questa qua invece è fissa, capito Massimiliano? Infatti l'ho detto prima che mi stavo spostando, ma qua devo rimanere inchiodato, se ho roba da fare per forza di cose c'ho il coso, il portatile. No, non stavo parlando di te, no, stavo parlando in generale, cosa di te? Dammi una fuggia a me, potete fare quello che volete. Non è problema, sì, ci mancherebbe altro. No, però a volte no, sai, tipo c'è stata la vigilia di Capodanno, no, che una persona si stava vertendo che doveva andare verso Fertilia, verso quelle dovelli, no, no, no, mi sto vertendo, faccio quelle T, e a volte è stato mezz'ora per prendere due solo altri bassi. Sembrerà Cioè, perlomeno io sono andato via, era mezzogiorno con un quarto, forse, no. Niente. Infatti ho detto, ma strano che Claudio non c'è risalito, vabbè. Andrà bene, va. Ok, riprendi Sandro. Sandro, coso, rispettalo Massimiliano, che anziano della frequenza ormai, che ha fatto la prima avviamento con Marconi, ha fatto. Ah, ma io tra me e Claudio non ce n'è problema. Aia. Corde. Calmo, mettiamo in ordine in frequenza, cerchiamo di non divulgare nel 27 eventuali, diciamo, comunicazioni nella banda altrui, ok? Massimiliano, mi raccomando, Sto facendo ancora corda, pesante, nella banda altrui, mi sanno, cavo di dentini. Ah, io già lo so. Alessandro dalle bande nere. Fatto. Quindi diciamo, altro, sono limitato, caro, sono limitato. Quando sarò in piena ampiezza, in piena cosa, allora faremo, diciamo, il battesimo. Sembra ricordo che ce la pagare 5 euro entro il 30 gennaio. No, ho capito, scusami. Deve pagare 5 euro entro il 31 gennaio. Hai capito? No, veramente ne ho pagato 16. No, 16, 17, 18 in tutto ho pagato. Ho regalate. No. Ma guarda, 12 euro, 27 più 5 euro dalla licenza amatoriale. Vabbè. Sono scelte che vuole fare la vita. Sono scelte che vuole fare la vita. Vabbè. Ma tu prendi tu e fai girare, vai. Io mi allontano un attimo dalla radio. Davvero, no. Ho bisogno di 10 metri relax che sono tutta la sera chiusa qua dentro. Ci sentiamo dopo se ci siete. Riprendi, Anto. Zappa, che poi non credo che per i radiomatori si debba pagare anche il 12 della 27, ma li pago anch'io, non ci sono problemi. Sandro, aspetta un attimino, volevo sentire Giampaolo. Giampaolo, vieni avanti se mi ascolti. Mi sentite, ben ascoltato da questa parte il Grotte che ti super cordializza e ti rilancia il mic. Cappa di Roggio, sì, un Santiago di 7, una radio di 4-5, tendente al 5. Mai sentito così forte e pimpante. Cambio, rimetto il cambio, anzi a coso. A proposito, Gianni Doppio Roma, ancora c'è. Non lo so, io mi saluto tutti, vai. E la radio che ho fatto io stamattina, 140, che mio personale, che 430, sta parlando dei problemi in AM, allora me lo sono portato su. Lo uso io, mando la terra, lui usa quella. Va bene. Ciao a tutti di nuovo, Massimiliano, Sandro, Giampaolo, Giuseppe Doncino, se c'è, a me non mi va, Antonio Gorbo, a te, noi ci sentiamo magari dopo. C'è Massimiliano con Gianfranco sull'ore 5 che stanno facendo le prove, se vuoi passare dopo siamo lì. Ciao a tutti, cosa tengo per me, mi allontano un attimo dalla radio, ciao a tutti, a pronto. Un attimo, oh Claudio, dimmi una cosa, che sto usando quello che stavo usando stamattina, è tutto il giorno acceso, ho fatto alcune prove in cuffia e quant'altro per vedere un po' come sta andando, là, perché adesso è bello caldo. Ma c'è l'eco, quindi non so se il 101 c'è l'eco. Ho l'eco? Ma cos'è l'eco? Voi sentite la radio l'eco? Davvero? Io no. Io sento leggero il mondo di eco, non so se è il microfono, cosa sia. Ciao Daniele, buonasera. No, se stai usando quello io sento un leggero tipo il mondo, quindi la radio va molto meglio di stamattina. Ehi capo, no, sto usando quello lì. Sto usando quello lì con la sua, diciamo, suo mic normale, ho fatto alcune prove. Era soltanto per vedere un attimino, perché adesso è bello caldo, bello pimpante, è tutta la via acceso. E niente. Bene, va bene. Allora ti conviene accendere il giorno prima quando lo vuoi usare. Sì, il giorno prima. Mi tocca fare lo fuoco sotto, quante evasioni di camion, vecchi tempi. Va bene, Claudio, come mi ascolti? Claudio. Conte ti ascolta forte e chiaro, sei una bomba, vai benissimo. Buonasera Daniele, ti si è rovinata la frequenza. Buonasera a tutti, così è a tu. E allora, Daniele, come stai? È un giorno che non ti fai sentire. Ah, io ultimamente stavo entrando spesso, tu è che sei sparito? Perché io sono patentato, non ci sto con certa gente, ormai sono nobile. Ah, così è. Così dicono. Dai, io mi allontano un secondo solo, dai. Ciao Daniele, ben entrato. Anche io mi allontano momentaneamente, dai. Ciao Sandro, Antonio, Claudio, Gianluca e tutti i vari ascoltori, dai. Mi allontano, faccio un QRT, ci sentiamo nel prossimo, ciao. Ciao, ma ci vediamo. Lontani vuol dire davvero che per me sapevo che rimanessi in radioascolto, vabbè. Sono qua, a girare per Sandro per i saluti. Come rendi? Che coso è l'uncino burro? Delle schiacce. Avanti, già fa. Perché sotto di zero, come di voi, sicuro si dice, ma sotto di zero lampate, ma se ti va se ti prendono le cose, che sotto di zero ti va se ne va, lascia di graziate. E troppo. Io Gianni, ok, ci vogliono signori, va. Ci vogliono, anche se pensiamo che noi siamo buttati, però a fin dei conti diciamo ci vogliono, capito? Almeno diciamo uno è tranquillo e beato, da parte mia ho già svuoto tutto. Già fatto versamenti e quant'altro. Va bene, ok. Gianlu, non lo so se sono troppo alto di modulazione. Questo è quello là che ti avevo parlato, che era fermo e c'avevo quel problemino che sono riuscito diciamo a risolvere quant'altro. No, sì, un po' troppo alto perché siamo vicini di radio. Magari gli altri di fuori che ti ascoltano bene, io ti sento un po' troppo alto effettivamente di radio. Non ho capito però quale, però, quel problema, di quale radio stai parlando, quella era in campagna? Io ci torno. Non dove? Sì, dai, c'era una valvola e poi c'era un qualcos'altro che non reagiva. Capito, si stava formando dell'ossido nei piedini delle valvole, quindi quanto infatti tu me l'avevi accennato, l'umidità e quanto è qualità, poi vabbè, comunque, adesso è detto quasi tutto il giorno acceso. Questo l'avevo detto, prima di fare la cosa fai quelle prove lì, perché quelle radio lì, essendo che sono di quelle di quella concezione con quei quattro, con quei cosi, magari lì a provare a pulire dove entrano le cose, i contatti e via dicendo, è andata bene lo stesso. Avanti Daniele. Brava. Allora, che si dice? Di mano a mano come tabacchiani, no, Casemmo? A vero, una giornata di vista oggi, Daniele, tutta la di casa gioco, non so vicino da loro, ma ti sono entrato a travagliare. Vedo un po' galletto, un po' che no, abusato e sono ancora così, non sono riuscito a fare nulla, poi sono già le 7:20, mi va andare. Va bene, e rilanciamo anche il doppio rumo, se non avete sentito che è rientrato. E ne approfitto solo per andare a sentire gli amici che sono entrati, nuovi. Mi hanno trattenuto perché c'è la gente a casa, 5 minuti, sono rimasto con loro per non far male di un cazzo, adesso me ne sono ritornato di qua. A proposito, riprendo io un attimino, volevo augurare a quella persona che forse era di ascolto, forse no, che me ne ha furato l'antenna della macchina, e gli spero gli faccia da parafulmine quando non c'è lui dentro la macchina, chiaramente perché non gli posso volere così male, e gli faccia prendere fuoco alla macchina, ma che è un tonto, perché quell'antenna era stata tagliata per l'antenna, per il piano di massa della mia macchina, quindi non se ne va di nulla, tonto. E quando andò? Mi hanno furato lo stile della della Minox, che cos'è la PL Minox? C'è sera. Allora, fa di gusto. Ma sicuramente è per usarla, ma figurati, si hanno rubato solamente la parte di sopra, quindi realmente non se ne fanno nulla, capito? Però intanto mi devo ricomprare l'antenna nuova e costa 57 euro. Oh. Vabbè, ci speriamo io che ce ne sento ogni giorno, raga. Altro, ancora esistono di queste persone qua. E non lo sai che la madre degli imbecilli è sempre incinta. Ma a prescindere, se me l'avessi chiesto gli avrei regalato anche la parte di sotto, adesso non me ne faccio niente di quella, capito? C'è un sito che vende i pezzi, però non mi ricordo qual è, e ti vende solamente lo stilo più la bobina di carica che c'è attaccata. E vabbè, cosa gli vuoi fare? L'unica cosa tanto è trovarlo e essere generoso e dargli anche la base del mozzo di sotto, capito? Ma è capo, ma... Oh, via. Allora, diciamo, papà, ti dico il carraglio all'acre. Gente, ma cosa dico, c'è un parassita, fate più bella figura, tanto come ti la buona e vi lascia apparire giù. Per arrivare alla mia macchina ha dovuto saltare due cancelli, uno dei quali si è dovuto sporgere sicuramente, e se cadeva si faceva davvero male, peccato, capito? Ma per un'antenna che vale usata, poi ne piglia la metà e sono 30 euro. Allora Marco, scusa, ne manco 30 euro, che ne manca un mosso. Capo, tu devi fare la prossima volta, devi fare soltanto che la devi lasciare fissa. Soltanto che la devi lasciare fissa, logicamente l'antenna non è che la puoi smontare. Io al furgone, allo stilo corto, gli ho messo, diciamo, il bullone passante e più sul dado l'ho soldato. Magari te la mollano dalle brugole. No, aspetta, questa qua c'aveva la chiusura a farfalla, ma era talmente serrata che stavo per ammaccare anche la carrozzeria della macchina, perché era serrata con un tubo. Il ciumacco deve aver preso un tubo e deve aver fatto la cosa inversa, ma quindi era premeditata, capito? E vabbè, cosa vuoi dire? Infatti, cazzo, se ti senti così a mano, non la potessi mollare. A mano non ce la facevi manco per il coso. Ci voleva un pezzo di tubo, ho capito? Perché era proprio talmente serrata che io pensavo ci fosse saldata. Ma che capo stai usando? Sì? È un benzino. Aspetta un attimino che diminuisco. E cosa c'ho questo baracchino? Ola, guarda un po' se è cambiata. Regolante benzino, sì. Cazzo, ma che non l'ha avuto che hanno dato? Guarda che l'ha avuto. Aspetta un pochettino. Ola. Questo è un modificato, è un 48 modificato con scheda ecco, fea grigione, però è un 48. Ora. Così ma è un pappa. Un pappa romagnaccio. Ho sentito la risatina della consorte dietro. Buonasera consorte. Pronto. Oh, tutto bene? Tutto bene, fratelli vicini e lontani. Ho fatta, riprendi Gianni. Ehi, si stanno sbizzarrendo, Dani. Ma c'è più religione, no? Ho visto di là, religione ce n'è un bel, assolutamente. E va bene, Sandri, riprendi. Fratelli carissimi. Ok, dai, vabbè, i soldi sono poco a poco, dai, adesso niente, cosa sono a fare un peso ancora, comunque, tiriamo avanti, aspettiamo l'estate, o crobbe. adesso tiriamo un po' la cinghia e andiamo avanti, dai. Signori, io vi lascio momentaneamente, che vado a farmi una passeggiatina, dai. Ce la se coincide più tardi, riprendi Gianluca. Fratelli e sorelli, quando tornate a casa, ricordate un ciaffone a bocca a vostro figlio se mi ha rubato l'antenna. E ditegli che quello ve l'ha dato grosse. Facendo il servizio che facevo, scendevamo anche in corda doppia nei burroni, quindi immaginati tu se ce ne ho di agilità, però non è quello il punto, è che me l'ho fatta io quella lì, no, ce l'avevo prima di averla tu, quindi non puoi sospettare di me. Ma se me la restituisci facciamo un pace. Ciao Giulio, ben sentito anche a te. Anto, ricordati che però non la devi smettere solo sul 10, deve essere smettata su tutti i canali. Io con la mia vado anche su 45 stazionale, non me ne dà. Ma quella te la sei autocostruita, comunque realmente andrebbe rosmettrata sul 21, centropanda. Però ti ripeto, mi interessava il 10, quindi comunque sul 10 gli avevo dato il ROS minore. Avanti Sandro per Giulio. Centropanda è 20 su 40 canali. No, Sandro proprio è andato via, salutato, non sai dove è andato a fare la passeggiata col quadrupede. Cioè, sono io e Giampaolo. Ciao Giulio, ben entrato. Giulio! Ti mando Giampaolo! Ciao Giulio! carica, ci sentiamo alle prossime, assolutamente. Riprendi Gianni e fai girare per la ruota, cambio. Cavagà, va là. Andavè. Rilanciamo a chi tocca, dai, avanti a chi tocca, che magari sbaglio io. A chi tocca? Aspetta che c'è Daniele che è in parcheggio. Daniele, riprenditela. Adesso sono qua. Ciao Giulio, buona carica e buon tutto, dai, ci affrontiamo alle prossime. Andavè. E quindi Anto, ma è in garage la macchina? Di Roggero, comunque stai uscendo una bomboletta anzi, e in fondo scala, cosa hai fatto? Hai aggiunto i radiali? Ma è fine là, a quale fare a fondo scala, le tue parti ce le vuole? No, negativo, sei fondo scala, non sto scherzando. Evidentemente oggi c'è una buona propagazione, essendoci molta umidità, però stai arrivando molto bene, ma sai che cos'è? Che io ho l'antenna che si è piegata e la polarizzazione verticale è quasi orizzontale, quindi è al pari di una direttiva, evidentemente è messa dalla parte tua, capito? Dai, che sarà, facciamo il giro dei saluti, ciao Giulio! Ben sentito di nuovo e alle prossime, buona carica. Dopo non so se c'è ancora in parcheggio Massimiliano o Leucino, poi non è giù preso più nuda, va, cavega non ve. Avanti Gianpai, salutaci, dai. Luca, mica sono sunete, mica la cremeria. Allora, non è teso, dai, mi sono ciamendi, e devi dire la sopra. Allora, posso pure l'usono, pure l'occhi tocchi. Ciao Giampaolo, buona carica, ci sentiamo. Avanti Grod e poi ridanci a Daniele, dai. Ciao Giampaolo, buona carica, ci sentiamo alle prossime assolutamente, così pimpanti e allegri come adesso che stai uscendo una bomboletta. Daniele, se proprio vuoi riprendere, riprendi, se no fai girare per qualcun altro che è meglio. Aia, ciao Daniele, buonasera. Antonio, al Grotte? Ah, è Tigrotto. Vabbè. Ciao Giampaolo, buonasera, buona continuazione, ciao. Yeah, ciao Silvè, sentite in barra a voi casomai, dai. Andare. Leoncino, la pizza mangiata che hai? Scappa. E beh, com'era? Non ho preso da quello lì perché iniziava troppo tardi. Cazzo, alle 8:15 iniziava a preparare già le pizze. Ma lo sai come la mangia in guanti bianchi, Leoncino, la pizza? Com'è? Non ho capito, tu. E che tu la mangi in guanti bianchi, se no ti mangi in pizza di mani, come la mangi, come la morsichi. No, va, ho preso la margherita normale, buona, poco sugo e ben cotta. Dunque, ci è scesa, so, che sembra un bijou. E la birretta te la sei bevuta? No, niente. Acqua, tu. Non bevo quella roba, non ne bevo più io. Roba alcolica, niente. Non ce n'è per nessuno. Oh Luca, alcolica è la birretta. Luca sta andando ad aprire la cosa. Daniele, riprendi tu, dai. Ciao Leoncì, mi hai sentito? Altrettanto, Daniele. Sì. Due trisce ne già, Daniele. Antonio, vero? Ma che? Ciao Leoncì, la diarrea ti ha fatto? Eh? Non ho capito, ma sveglia. Se ti ha fatto diarrea? No, non mi ha fatto diarrea, stai tranquillo. A me la pizza non mi fa diarrea. Altra cosa a base di diarrea. Quando ne mangi un bel. La fai. La fai il mezzo. Ha tolto proprio la parola a bocca Gianni. Non vedi? La volta che l'ho presa io e ti rivedi in naso. Attualmente già. Addio mai, cazzo non è. E non ti rubo già Giuseppe in macchina, la puoi rimanere a fede. Oia, il deodorante ti vedi. Come lo vedo, cazzo? Come ti vedo la mochetta impregnata? Vai, che se c'è l'impiata cazzo ti fa risparmiare pure. Ma che, fondo il turbo? Ma è propano, non è buttano come il suo. Grazie. questo venerdì ha detto no, che bisogna dire di sorraggiamento. Per esempio, per venerdì è previsto ghiaccio, neve e sassari. Mi ha attrezzarci. Sì, ma le cartelle sono obbligatorie solo sulla città di Giulovi, no, non in città. Sì, ma se piove, se fatti come quella volta scorsa, che ne ha fatto un bel po' di neve, che via Valletta non si poteva manco camminare. Camminando, cazzo, piglio quattro trompate a casa e ti culo, cazzo, sul culo, va, è uscito lungo. Io invece me l'ho vista brutta vicino a Graziella, la buttivo di quella discesa che c'è, ho messo la prima, non ho toccato freni, cazzo, la macchina gli era andendo, non sterzava Gianluca, è vero, un cambio viene dalla Sabbassi, che chi tu sei uscito dalla Sabbassi? Però non per me, no, c'era già uscito. Io ho visto il camion che sbarrava la strada, stavo cercando il cazzo di distinto, vai a toccare il freno, cosa vai? Vedi lo stacco davanti, ti cudi. L'ho fatta girare la macchina con freno a mano, manco male mi raggiungare. Un casino, quando ghiaccia la strada già, bisogna stare attenti. Non fa viaggiare così, l'unica volta che non sono andato al lavoro, perché quella volta che ha nevicato non faceva scendere via Morva lì, perché tutto varata e non ce la fai a frenare. Allora ho fatto tutto il giro, sono arrivato alla chiesa del Buon Pastore, in prima mi si gira la macchina, come fa a pattinare, e allora l'ho fatta andare sotto sterzo, l'ho fatta andare vicino al marciapiede, l'ho appoggiata con la ruota, ma tu dovevi vedere già le macchine che si staccavano dal parcheggio da sole e camminavano le scudie una con l'altra, ma senza padrone, senza nessuno, mi parcheggiate. Erano in farata, no, per rubare in chibi, tutti i gatti hanno buttato la macchina in chibi, per rubare, ecco. Beh, a un certo punto la macchina mia era parcheggiata, vedo questo fuoristrada, fa la curva, tu convinca che va in 4x4, cazzo, finisci lì su fuoristrada, esce le cure della macchina mia, io sono cantato da giù, l'ho deviato, perché sulla neve, sai, l'ho deviato di poco, si è appena appoggiato al paraurti, se no mi avrebbe barrato tutta la macchina. Tutti i zicchirrienti, spostati che ti schiaccia. Hai zitta, io mi voglio fasciare la macchina. Cazzo, ma buono tu. Ma figlia la macchina della Bia, te la accompagni. Sì, Gianlu. Io mi sono messo, non sono scemo, no? Mi sono messo dietro la macchina mia e l'ho spinta, capito? Da dietro la macchina, mi sono usato la macchina come scudo. Ma non si buono in mezzo, va a far culo me. Oh, io ero proprio pronto a fuggire, se mi era nella macchina andato per fuggire, non è che se mi stavo facendo tutti i cose, cazzo tu hai rischiato grosso, cazzo secondo come ti si gira la macchina, tu non sai come ti si può girare, e vabbè, tanto ci sei fatto la macchina. Dopo 5 minuti arriva questo qua, cazzo, figlio, buono ci chiudi a chi se ne trova, cos'hai, era una Toyota. L'ha fatta mezza? Avanti, Bomponio. Sì, ok, sono di nuovo qua, eh. Ho cambiato un attimino trattore. Gianlu, troppo alto, eh? No, va bene, però sento leggermente l'alternata, non so se è roba di alimentatore o che cos'è, o se c'è qualcosa acceso lì vicino che fa qualche rumore. No, ma io avrei usato quell'altro, io l'avrei fatto bella cagli fuochi, io lo sa. E dove la sassa, giusto? Ho già, c'è un po' di umidità, capito, però si sta bene, non è tutto questo granché. Alternata, non lo so, cosa ne so. Gianni, cosa mi ascolti? Allora, premi la porta per senza parlare. Allora, si è sentito all'inizio, poi ha abbassato del tutto. Eccolo qua, sì, allora, sì, sul mic. Me ne accorgo sul mic quando, per dire, adesso c'ho il dito sullo, siccome è plastica, vado a mettere le mani sul mic, e quindi c'è qualcosa di innesco, vai. Quella è una massa, vedi, che ci deve fare, sicuramente. Ok, va bene, dai, comunque. Può vedere un po'. Di radio come lo già. Ma la radio va bene, a parte quanta rata va bene. Avanti Giuseppe. E una cosa, cosa può essere dove cambi canali? Allora, dall'1 al 5, al 9 sono normali, si vede normale, dal 10 in poi si vedono a metà, cosa può essere? Lì c'è da guardare il coso, bisogna guardare il commutatore dei canali, sicuramente è partita qualche cosa, da lì dal commutatore sicuramente. Ah, ho capito, perché... Invece 10, adesso c'è un trattino, non è 1, è un trattino più lo 0, capito? Se già si può mettere a posto, allora me ne va a messi a posto Massimiliano qui, nel Galaxy che avevo prima, me ne va a messi a posto Massimiliano, quindi ci vuole poco per farli riprendere. Ecco, che cosa va a cambiare, una fesseria. Ah, cappa. Strano, strano. No, niente. No. Ma me l'ha fatto stasera, 10 minuti fa l'ha fatto. Il display dei canali. Questo che cos'è? Il Pluto? È il Galax, quello... Galax 2. Lo fanno quelli. Ma basta che da qualcuno che si intende ti guarda il display e... Sicuramente qualche fesseria, a me ti ripeto, nell'altro garage che avevo me l'aveva fatto e l'ho portato a Massimiliano e l'avevo messo a posto. Oh Giuseppe, quello è qualche condensatore in avaria. Condensatore? Ha detto già? Condensatore, sai i condensatori della volta si scaricano, ma è stato molto fermo quell'apparato? No, stavo già, non c'è per questo, c'ho questo a casa, già, c'ho solo questo qua, hai capito? Perché l'altro l'ho dato a mio compare, che dovevo metterci, gli abbiamo piazzato l'antenna e tutto quanto, gli ho dato quello da base, e c'ho questo qua, però dall'1 al 9 sono normali i canali, no? I numeri, e gli altri, dal 10 sino al 40 non si vede bene. Diciamo che si vedono un po' annebbiati, diciamo, non sono belli evidenti, belli pervanti, giusto? No, si vedono i gambi. Allora lo 0 lo vedo normale, è l'1 che non riesco a vedere bene, capito, sa? Ho capito, dai, diciamo che i numeri non sono completi, sono a metà. Ma 2 potrebbero essere un fattore, adesso non so che alimentatore stai usando, se l'alimentazione è giusta oppure se sta facendo qualche pizza lì l'alimentatore. No, come l'alimentatore io c'ho quello che si usa per le cose dei computer, visto hai, come si dice... i computer, quelli grandi che dentro c'è quelle specie di coso, e me lo sono fatto fare da coso, uno da 12 volt per 8 ampere massimo. Ho capito, sì, niente di strano, niente di strano che sia un alimentatore che non ti stia portando, diciamo, l'alimentazione giusta, diciamo, all'apparato, capito? Vabbè che non è tutto questo un grande assorbimento, ma l'assorbimento non c'entra niente, lì è il voltaggio. Il voltaggio, diciamo, i volt deve mandare i 13,5 e 13,6 costanti, diciamo, l'apparato. Potrebbe essere quello lì, oppure potrebbe essere qualche condensatore, diciamo, mezzo andato. Tu adesso non so se hai un tester per controllare l'alimentazione in uscita, diciamo, dall'alimentatore, per vedere un po' se l'alimentatore ti sta buttando fuori l'alimentazione giusta. Ma non ne ho tester, Sandri, non ne ho, dunque, no, non so, perché i collegamenti io li ho fatti tramite, questo qua mi ha messo le banane, dai, capito, maschio e femmina, rosso e nero, io l'ho collegato. Sì, ho capito, dai. Ho capito di che elementatore si tratti e tutto potrebbe possibile, Giuseppe. Niente di strano che sia l'alimentatore, magari che sia che non ti stia buttando fuori, diciamo, il voltaggio giusto. Oppure qualche condensatore che se ne sta andando, diciamo, sull'apparato, perché quel problema lì, diciamo, è quando o ti manca l'alimentazione o quando, per dire, c'è qualche condensatore, diciamo, che è quasi andato. Va bene, Gianluca. Sì, qualche cosa del genere ho pensato anche io, tranquillamente. Sarà qualche cosa del genere. Bisogna aprirlo e vedere un po' cosa è. No, la prima cosa che fai da fare lì è, Don Giuseppe, è trovare un tester. Non trovare un tester e misurare la corrente in uscita, diciamo, dall'alimentatore. Vai ad esclusione, logicamente, capito? Una volta che hai escluso, diciamo, verificato se la corrente dell'alimentatore è giusta, allora probabilmente qualche problema, diciamo, sull'apparato lì. Magari lui c'ha Pomponi, Antonello, lui già lo sa. Adesso, quando lo sento, glielo dico. Attenzione 10. Tu avremmo di riguardare c'ha cosa? Guarda un attimino, come ti sembra, Gianluca? Sta girando bene? Hola, 1, 2, 3, prova. Sì, abbastanza bene. Bello, si sente bene. Siamo contenti, grazie Massimiliano. Va bene così, Gianluca, è regolato bene. Il regolatore non è tanto invadente, diciamo, non è di quelli prepotenti che fanno oh, sai, che ti bucione già nel gabbo. Si sente bene, la modulazione è chiara, le parole proprio scandite, va bene. Massimiliano, non provocare. Avanti Gianni? No, cioè, non c'è niente, Massimiliano, ti fa venire questa specie di stimolo, no? Capito? Di stimolo, non voglio adesso accennare altri stimoli, più potente. Questo cicafuso è in vendita, caro. E Quanto ne vuoi, Antonio? Non ti preoccupare, ti dirò un culo. Dimmi quanto ne vuoi per quella questione lì. Guarda, questo lo vendo, quanto l'ho pagato? Quanto ne vuoi, 150 euro? Qualcosa di più? 200. Scappa. Vabbè. Già. Ci metteremo d'accordo, Anto. Ti ripeto, guarda, questo qua me l'ha venduto un camionista di Cagliari. A dirti la verità, mi aspettavo che avesse il doppio modulatore, invece non ce l'ha. Però c'ha 120 canali più questa scheda a conta. Anto, ma è l'ascolto originale? Così mi ha detto, e poi Massimiliano saprà, se ce lo vede dentro, sicuramente lui le conosce. No, non sono originale le colto. Originali cosa intendo? Originale colto? Beh, c'è il malacchino colto che nasce con quella scheda lì, capito? Con la scheda originale colto e gira. Così, più o meno. Massimiliano. Oh, yeah. Non è che te lo posso portare il baracchino, questo qua, quello simile, quello che c'hai tu, il garage, perché dall'1 al 9 i canali sono normali, si vedono normali, dal 10 in su, ce ne mangia la metà, cosa può essere? La fammi. Può essere che l'integrato oppure il numeratore dei canali che ma non è che sei disponibile tu a controllarlo, vero? E quello che Massimiliano non mi piace, eh? E a me già mi piacciono tutti, quando sono regolati bene, lo sa, va bene. Ehi, caparai, giusto per trovarlo, adesso non sono morto, io non lo accenderò, dai. Com'è la modulazione, vabbè, a parte, diciamo, ripetizione, la modulazione com'è? Abbassa per me che abbassa, chiudo pure il radio. Assordante, a dire poco, io sono in cuffia, cazzo, per grimbando la rete. Che abbasso molto. Ok, troppo alto. Ok, così va meglio? Ma adesso mi hai tolto quasi tutto l'eco, metti che un pochino, vai. No? Che chiedi, non ce l'ho troppo. Ok, dai. Il macchinino adesso ce l'ho a metà, era troppo aperto, dai. Così non fa buppa. Ok, dai. Va bene. Ma per me così va bene, Gianni, tu cosa dici? Scappa, va benissimo. Di Antonio Grotte, per farti capire, quello lì c'ha tipo questa scheda, quasi uguale. Io non sono Napoli, lo so qua, mi piace di più, dai. Grode, quello di Sandro, la scheda Colt, non è sempre originale, sono copiate, capito, le schede. Però più o meno 48, 2001, Pluto, sono tutte uguali. Ma no, ma vedi, questo giro che sta facendo adesso mi piace, il tuo. Va più che bene, nel senso mi piace proprio quando fa rum. Positivo è Caparroger. Ok, dai, vediamo un attimino, provo a regolartelo un po' meglio, Massimiliano, tu che c'hai un po' l'orecchio, vedi un po' in questo passaggio qua, prova. No, c'è ancora troppa radio, lo sa, ma chiudiamo ancora un pochino di che troppa radio c'è. Scusate un attimino, raga, un attimino di bianco, e devo finire una cosa, un secondo. Ok, dai. Massimiliano, sto usando quello amplificato, il portale manuale, il microfono manuale, quello là, quello amplificato, vabbè, in genere si mette il microfono palmare, normale, senza essere amplificato, per fare queste prove, dai. Ehi, capo, dai. Non ce l'ho parlata di mano, dai, comunque, va bene. Così va benissimo. Grode, ti faccio sentire un altro, dammi 2 secondi, te lo faccio sentire un altro, riprendi. Ehi, vai. E mi faccio una cultura. Vedi, questo qua è... se lo diminuiamo ancora di meno o di più. Ora, aspetta che non abbiamo fatto riprendere Daniele, che l'abbiamo lasciato in, in parcheggio. Riprendi Daniele. Io riprendo, di saluto, vado a fare un po' di carica. E già, ascoltiamo le prossime. Io Daniele, guarda che ti chiamo per quella cosa, non scherzare. Ehi Antu, chiamalo, ci vediamo, fammi sapere, dai. Gaba, gaba, riprenditela già. Ehi, Gaba, gaba. Cosa dire? Non ho argomenti, non ho argomenti stasera, sono molto stanco, chissà perché. Sicuramente qualcosa che ho mangiato mi ha appesantito e sono svogliato. Oh, Grotter. Gaba. Allora, per farti capire, questo qua è un altro, cambio. Sordo dell'altro, ma questo fischio si sente, aspetta un attimino, questo innesco che c'ho. No, sento innesco, proprio voi sentite innesco. Prova a non parlare, tanto è schiacciare, no? Questo fischio leggero proprio. No, ho fatto un pito. No, da parte mia non sento niente, non lo so, comunque Massimiliano, meglio quello precedente, questo te lo fa, te lo fa completamente, vabbè, ho visto la luce dello Smith abbassarsi, oh Giorgio, quello là era migliore. Massimiliano. Ehi, positivo. Questo qua è il Galaxy Pluto. E l'altro è 48 da battaglia. Cioè si vede la differenza. Cioè questo è bello, è attenzione. Però l'altro è da paura. Ehi, questo qua è più soft, capito? Questo c'è un bel eco, capito? Già spinge anche questo, Però secondo me quello là è più da battaglia. Io vi devo salutare, mi troverete su altre frequenze perché devo andare nell'altro QTH, quindi non ho ancora rimesso quell'antenna lì, quindi non ho apparato in macchina, il baracchino non ce l'ho in macchina. Vi saluto, ciao Gianni, ciao Sandro, ciao Luca, ciao Massimiliano, ti ringrazio, buon rendere. E ci sentiamo alle prossime. Giampaolo non c'è più, mi sembra che abbia fatto QRT per carica batterie. Ci sentiamo più tardi dopo la carica, se coincide. Ciao ciao. Ciao a te, dai, buona carichetta e ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao, riprendi, ciao. E ok, dai. Va bene, ciao a te, buona carica, buon tutto, dai. E ce la risentiamo tutte le prossime. Avanti Gianni. Ciao Anto, buona questa greca, dai. Ci sentiamo, avanti. Daniele, ci sei? Te l'ha chiuso, avanti Massimiliano. Ah, aspetta, non ho salutato Leoncino, ciao anche a Leoncino, e non so se abbia chiuso, se sia ancora per chi ruota. Ciao Anto, buona carica, buon tutto, dai. E buona l'altra. Buona l'altra. Buona la prima. Malizioso Giuseppe, tu non lo conosci, pare così, ma... lo sai cos'è? Il discorso della domenica, perché la domenica diciamo che è angosciante, hai capito? Non è come per dire l'arco della settimana, che l'arco della settimana sì, uno rimane più impegnato, diciamo, e quant'altro. La domenica è più angosciante, te la senti più addosso e quant'altro. Ma forse anche la giornata l'ho fatta oggi. Vedi come la vivi la domenica, se esci, se fai, la vita di macchia ti passa. Per dire, io quando vado a pranzo a casa di amici e cose del genere, mi passa nemmeno la vengo la domenica. Ehi, capo, diciamo che la impegni, diciamo, la impegni di più. Va bene, ok, dai. Massimiliano, sei riuscito poi a risolvere il problema dell'alimentatore al Mike? classici alimentatorini piccoli per la ricarica dei cellulari, che quelli mi sembrano che siano intorno ai 7-8 volts. Ecco, uno di quello che dovresti procurare. Allora, ho procurato uno da 9 volts, l'ho attaccato e non va lo stesso. Lo so, è tutto da capitare, oppure devi, adesso non lo so, se ci andava un componente per eliminarti, diciamo, la tornata su quegli alimentatorini che mi hai accennato, che puoi variare, diciamo, l'uscita e il volto, ci andava un piccolo componente per abbattere, diciamo, la tornata. Ma quello vuole aperto per mettere il tuo componente, e poi che componente ci vuole? Non lo so, questo non te lo so dire, ma diciamo io mi ricordo che avevo chiesto mi avevano accennato che ci voleva un piccolo componente, diciamo, all'interno dell'alimentatore per evitare, diciamo, questa piccola alternata che ti butta fuori, che poi logicamente ti porti sul microfono. E non lo so, prova a chiedere a Gavino, lui magari ne sa qualcosa. Allora, in poche parole io a Gavino glielo ho detto. E lui mi ha detto che questi alimentatori che fanno così, che variano i volt, non vanno bene, ci vuole un alimentatore che sia a corrente continua, capito? E va bene anche da 6 volt, perché quando c'ha il carico la batteria la segna perfetta. Cioè io l'ho provato con 9 volt, la lancetta dello smitter se ne va proprio, sai, appena lo accendi ti segna la batteria, infatti rimane a fondo scala, nel senso che è come che sta arrivando troppo. Ehi capo, non fare lo sbaglio di mandarli doppia alimentazione, non fare lo sbaglio di mandarli doppia alimentazione perché sennò te lo giochi, ma lo mandi in tilt. Oppure io non so adesso se c'è un alimentatore tipo lo switch per l'alimentazione dei volts regolabili, allora sì, allora potresti utilizzare quello lì, capito, ma lo devi dedicare soltanto a lui. No, ma alla fine lo lascio così, non c'è alternata e vorrà dire che le cambio ogni 15 giorni la batteria. Che capo, io lo so, purtroppo quel microfono lì ne ciuccia, e vabbè, comunque, va bene, qua sta piovendo, sta di nuovo caricando, e vabbè, lasciamola fare, già ci vuole. Signori, io vi saluto, dai, correti da parte mia, buon proseguo di serata, ciao Gianni, ciao Massimiliano, tutte le prossime.